Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Eccoci, signori miei, bentornati. La prima trasmissione ufficiale del 2017, anno non bisestile. Bentornati a Voice Anatomy, signori miei. Sono le 14:32 primi e 13 secondi. Sapete perfettamente che noi cominciamo la nostra trasmissione ricordando chi in voce ci ha ricordato tante cose, ci ha raccontato tante storie. E pensate che l'8 gennaio del 1935 nasceva a Tupelo, e per tutti noi rimarrà The King of Rock, Elvis Presley, detto anche Elvis the Pelvis per i famosissimi movimenti rotatori del bacino. In 24 anni di carriera, pensate, ha pubblicato 61 album, vendendo oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo e conquistando il record di dischi venduti da un solo cantante. Che bello quando si diceva ancora la parola dischi e non CD. È scomparso a Memphis, beh, dov'è altro, nel 1977, troppo presto. La sua attività musicale va dal rock al rhythm blues, dal country al melodico, ed è stato l'ispirazione per molti nostri cantanti italiani come Celentano, Little Tony e Bobby Soul. Ma noi, signori, vogliamo ricordarlo con la sua versione di O Sole Mio, It's Now or Never, è adesso o mai più. It's now or never. Ma sempre l'8 gennaio, pensate, del 1947, nasceva a Londra David Robert Jones, al secolo David Bowie. Stato un grandissimo cantautore, attore britannico, purtroppo prematuramente scomparso a New York poco tempo fa, proprio il 10 gennaio del 2016, poco prima della sua anteprima di Dark Star, questa cosa bellissima, l'ultimo disco che ci ha regalato, che adesso è anche un musical. Per ben 5 decenni è stato il protagonista della musica rock internazionale, conquistandosi la fama di inventore del glam rock. Bowie si è dedicato anche alla pittura e al cinema, recitando in tantissimi film come The Hunger, The Prestige, L'uomo che cadde sulla terra, ma per noi lui rimane e rimarrà per sempre l'uomo che vive sulle stelle. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. Brividi, brividi. A Voice Anatomy. E chiudiamo con una grandissima cantante vivente, anche lei con la sua voce ci ha regalato e ci sta regalando momenti straordinari. Lei è nata a Cardiff, anche lei l'8 gennaio del 1937, pensate che dal 1999 è la dama di commenda dell'impero britannico per volere proprio della regina Elisabetta. È diventata famosa in tutto il mondo per le sue interpretazioni nei title track di vari film di James Bond come Goldfinger, Una cascata di diamanti. E in Italia, pensate, ha partecipato al Festival di Sanremo del 68 con una canzone che credo che riassuma tutto quello che stiamo dicendo noi adesso. E con questa canzone vogliamo salutare queste persone che ci hanno raccontato tantissime storie. Shirley Bassey, La vita. Ah, la vita. la vita, forse tanta gente non lo sa, che è la cosa più bella al mondo. Questo bel periodo che ognuno di noi dovrebbe vedere la vita meravigliosa di Frank Capra e fare pace con se stessi, con la sua famiglia, con i propri amici e sentire quel tintinnio di quella campanella quando un angelo mette le ali. Ma noi parliamo di voce, non parliamo di angeli, anche se molti hanno una voce d'angelo. E vicino a me ho un grandissimo cantante, non è nato l'8 gennaio, no. È vivente, perché l'avete sentito in questo momento. Per fortuna. Stai bene, tutto bene, vedo. Ancora. Però basta mettere due note e capiremo il perché. Ma prima di parlare con il nostro cantante misterioso, che veramente, quanti anni è che tu professi codesta professione, maestro, senza dire... Dal primo album che uscì nel 74. Nel 74, per cui sono 26, 36, 42, questo è il 43esimo anno. Sì. Stai facendo quasi a nozze d'oro con la musica. Ormai. Ci manca poco, per lui è ancora molto giovane. Non voglio dire ancora chi è, perché ho la fortuna di avere per telefono un esponente della prima generazione dei doppiatori italiani. L'unico che ancora combatte ed è lucido, meraviglioso, quasi novantenne, la voce di Anthony Perkins, di John Voight e di quant'altro. Insomma, adesso nel frattempo saluto anche i miei autori, Alessia Navarro, Mauro Meconi, l'Alessandro sempre pronto, il nostro tecnico del suono, Rachele, la nostra caporedattrice, e al telefono il grandissimo Massimo Turci. Pronto? Pronto! Oh, sentilo! Ma sai che voce hai? Ciao Pino, come stai? Cioè, adesso devi dire l'età che hai, perché in confronto alla mia e a quella del mio cantante misterioso al mio fianco sembri nostro figlio. Sì, no, io sempre mantenuto questa voce giovane, purtroppo. Tu sei nato il 20 giugno del 1930, Massimo. Esatto, sei tutto di me, Beh sì, no, ormai c'è scritto da per una volta, non lo potevi sapere soltanto se lo raccontavi tu. Adesso, Massimo, tu clicchi Turci, esce fuori anche quando hai avuto l'ultima bronchite, il morbillo. Sì, purtroppo ho avuto questa bronchite. Poi è vero, ce l'hai avuta davvero. Mi ha disorientato, perché nella vita... facendo tanto le corna, insomma, sono stato sempre abbastanza bene, e questa polmonite invece mi ha distrutto, proprio distrutto. Tu devi evitare di correre al freddo. Non devi correre nudo per le strade, Massimo, lo sai. Io voglio far sentire un attimo un Massimo Turci d'annata, tratto da... abbiamo, vero, scaricato un pezzo che raccoglie un i pezzi insieme, mi dicono i miei autori, facendo dei simboli con le braccia. Io riesco a leggere labiali, comunque, vi ricordo, per cui dall'altra parte del vetro potete anche parlare. Sentiamoci Massimo Turci in varie interpretazioni. Ti sei comprato un'altra camicia? Veramente ne ho comprate tre. Non ti chiedo dove hai preso i soldi. Ho incontrato un amico. Alain Delon, Anthony Perkins, Ray O'Neill, John Voight, John Voight, da marciapiede. Only the echoes of my mind. Lo sai dove te li puoi schiaffare quei piatti? E se per caso ti manca il coraggio di farlo da solo, ti darò una mano con piacere. Con tutto il cuore. Ti faccio male? No. E ora ti faccio male? No, stringi. Ma non capisci che non ho più forza, vuol dire che è la fine. Io non voglio morire, non voglio, capito? No, avevo cominciato un sogno e vorrei sapere come va a finire. Ma lo sai che papà vuole che faccia riposare le corde? Sì, intorno al collo te le metterei le corde. Perché mi chiamate ancora maestro? Se non mi dispiace, vorrei ritenervi un'amica. Una carissima amica. Nel dolore o nella gioia non conta. Ma qualcuno, un amico, una mano che stringe la nostra mano. Anche lui se n'è andato. Bene, adesso so. Non mi lasceranno mai uscire. Mi terranno segregato qui finché un giorno, quando sarò vecchio da buttar via. Ti ricordi Ryan di Denver, vero? Rocky Ryan? Questo è il figlio. Ho saputo che spara meglio del padre. È da sperarlo, se porta quell'artiglieria. Guardate, sceriffo, che se le due pistole vi disturbano, posso cedervene una. Anzi, anche tutte e due. Tanto non mi servono a niente. Eccoti, ti sei piaciuto in questa cavalcata? Vai, guarda, sei meraviglioso, non so come ringraziarti. Poi mi ha ricordato L'uomo prese il fucile di Prudhomme. E L'uomo prese il fucile, come no? Che bel film. Ma ragazzi, tu, bellissimo. Massimo, io quando ero piccolo, adesso sono un po' più grande, io mi sono sempre ispirato, nel senso ti ascoltavo sempre con grande gioia, te e Peppino Rinaldi ovviamente, senza dimenticare Cigoli, però punti di riferimento erano questi. Quando avevo un po' di voce più leggera mi piaceva assomigliarti, e quando c'avevo un po' più pesante mi piaceva assomigliare a quegli altri. Beh, sono cresciuto nella vostra ombra, ho imparato rubando da voi qualsiasi cosa, Massimo. Ma sai che questo me l'hai sempre detto? Sempre, poi, sempre. Da quando ci siamo... Sì, e chi ti ha più mollato? Sono il tuo stalker, Turci. Guarda che carino che sei, sei sempre molto, molto gentile. Ma non è difficile essere carino con persone incredibili come voi. Tu rappresenti la storia e io devo dire che le persone che come te hanno raccontato la loro storia e ci hanno fatto vivere in questa maniera dovrebbero continuare fino alla fine. Io scusami, dico una cosa brutta, sembra, ma non è così. Io te farei morire abbracciato a un microfono dentro una sala di doppiaggio, Massimo. Sì, sì, certo. Cioè, lì, non so, 120 anni, quando te pare a te? Ma sì, lì, certo. Lì. No, ma io ho smesso di lavorare un 6-7 anni fa, però mi sono ritirato perché ho avuto anche delle vicissitudini familiari. Insomma, no, perché tu mi rubavi le parti a un certo punto, che con questa voce ancora poi fai quarantenni tu, smettila. Sì, sì, volentieri. Poi continuato a cercare le varie società, perché la CDC praticamente non esiste più. No, quella vostra storica no. Io sono socio fondatore, a 14 anni mi chiamò Cigoli e facemmo la CDC, la prima società di doppiaggio. Poi sono nel 1944, io avevo 14 anni, e mi chiamò Cigoli e sono socio fondatore della CDC, la mitica CDC. La storica, la vera, storia, l'unica. Sì, dove c'erano tutti attori poi di teatro, mi ricordo, c'era da lì si veniva. Vicino a Carlo Romano, tutti i nomi che forse adesso la gente non conosce, ma erano tutti attori, Gino Cervi, lavoravo lì Lattanzi. Usti, buonasera. Te la ricordi Lina Lattanzi? Certo me ricordo. Ma sì, voi eravate grandiosi, ma scherzi, era quel doppiaggio che tuttora lo senti vivo. Lo senti, sarà i microfoni, uno dice che i microfoni valvolari erano di un certo tipo, quella è una scusa, erano le voci che avevano un grande carattere. La Pagnani, la Simoneschi. Faremo un'altra bella puntata dove tu sarai seduto qui e ci sarà il grande Gerardo De Cola, che è la memoria vostra storica, come per no, cui tu devi essere l'esponente vivente di questo racconto che faremo delle voci. D'altronde, se non lo facciamo noi qui a Voice Anatomy, non lo facciamo da nessuna parte. No, io verrò senz'altro, guarda. Sì, rimettiti. Sono venuto pure questa volta, però il dottore mi ha detto: Massimo, tu sei matto. Ma perché con questo freddo non devi uscire. E io non sono uscito perché purtroppo questa polmonite. No, fa freddo, no, non fa freddo. Fa freddo, vero. Massimino, io ti abbraccio forte e ti abbraccio anche l'ospite misterioso per ora vicino a me, che è una grande voce della musica leggera italiana. Adesso quasi accesa, adesso quasi accesa. Quasi accesa mi piace. Va bene Turci, ti voglio bene. Grazie Pino, grazie a te, che saluto anche da me. Un saluto anche di qui. Ciao, un Massimo. Quasi saluto, un quasi saluto perché ancora non lo dico chi sei. Io mando soltanto due note, ma Alessandro, stiamo andando in pubblicità. Due note della canzone, una delle canzoni più famose, ma quella che l'ho creata. Ma veramente due note, facciamo proprio, te la indovino con due. Leva. Ecco. Rimaniamo così. A tra pochissimo. Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Siamo stati rapidissimi, siamo tornati signori col mio ospite che adesso presenterò, ma prima voglio salutare un amico che verrà ospite perché adesso lui è impegnato all'Eliseo con l'anetra all'arancia con Luca Barbareschi. Lui è il grandissimo Gianluca Gobbi, un uomo, un attore del nord, puoi salutare con la un attore del nord, mi piace moltissimo, buongiorno a tutti. Ecco, adesso stai correndo all'Eliseo che sta qui vicino, ma è un grande amico e... Vado a fare la replica, non si può sentire, però va bene. Grazie mille. Gianluca, tanta merda. Grazie come si mille. Dice a prestissimo, arriverò. Sì, e t'aspetto. Comunque sul palco lui è un principe russo. Sì, sul palco. nella vita, nella vita, ma nella vita. Pieno di complimenti. Grazie anche all'ospite misterioso. Esatto, volevo non dire ancora il nome, ma ormai l'hanno capito. Allora io adesso la manderei, perché insomma ha caratterizzato le vite di chiunque. Da quando è uscita? Che anno è uscita questa canzone? 1980. 80, qui sono 36 anni che ti racconta. Tu sei orgoglioso di questa canzone? Sì, non mi ma fa certo. Come quelli che dicono no, perché quella poi ha caratterizzato troppo, ha raccontato troppo. Assolutamente, anzi ringrazio sempre questa, sì, la tua ispirazione. Poi mi racconti com'è nato fortuna. Questo colpo. Sentiamocene un momento, vai. Passo le notti a camminare dentro un metro, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro due calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò. Ma adesso... Scusi, allora? Grazie. Dovevo fare, te l'ho fatta fare con la premiata ditta. Signori, Gianni Togni. Buon pomeriggio a tutti. Eccolo. Grazie Gianni, che bello. Cioè, ci siamo sentiti una volta per telefono, ma hai promesso che come sarebbe uscito il tuo album di canzoni ritrovate del 77? Sì, io l'ho inciso nel 76, dovevo uscire nel 77. E te lo sei perso? Allora, quello è un album che era stato prodotto da Red Canzian, ci suonano Tullio d'Episcopo, Do di Battaglia, l'orchestra e di Claudio Fabi, il papà del di Niccolò. Per me è più importante il padre del figlio, ovviamente, perché no, vabbè, papà, all'epoca vabbè, certo, no, adesso... ma era un grande signore direttore. Di grande successo. Vabbè, non è un caso che il figlio faceva sia... rondò veneziano, insomma, non lo so, era un grandi produzioni, grandissimo, sì. Ho fatto questo disco inciso a Milano, mi ricordo nel 76, uscì solamente un singolo poi nel 77, se non vado errato, perché insomma già, sono passati 30 no, ma tu devi leggere tutto dentro la copertina, ho dovuto mettere anche dei dati forse probabili, me lo portate il disco, la copertina, cioè, che abbiamo scaricato ovviamente con Alessandro, con dentro però... il servizio fotografico che era stato fatto all'epoca da mio fratello, che era un fotografo del rock, proprio per quel disco, e noi abbiamo utilizzato quello che c'era rimasto. E certo, facile. Però insomma, quindi questo disco, a parte un singolo, cioè Ma tu non ci sei più e Con amore che in che parlo, alla fine non uscì più. Io ovviamente poi con il successo di Luna eccetera. Luna uscì quando? Nell'80, e quindi 3 anni dopo. Ah, 3 anni dopo, per cui però tu ancora... Luna l'ho inciso nel 79. Nel 79, sì. Per cui dopo questo che non uscì. Sì, che non uscì. E qualche anno fa ritrovai, ma un bel po' di anni fa, ritrovai un master, perché stavo rimasterizzando tutti i miei dischi. La cosa bella è l'hanno trovato eri vivente e l'hai ritrovato te, perché normalmente si ritrova dopo una brutta malattia. Infatti ho ritrovato questo master che conteneva solo 8 canzoni, sai, i vecchi quarti di pollice, un quarto di pollice su alti, alti. Redbox, insomma. E 8 colonne, quante erano? 8 piste? Era la copia master. Ah, la copia master è finita. Me ne mancavano 5 canzoni, non le trovavo, quindi per anni ancora poi l'ho ridimenticato. E alla fine un giorno, mettendo a posto sempre in questa grande ma archivio, sì, in un posto tutti i cassetti, ho 2 milioni di cose, trovo una cassetta anonima, per fortuna c'ho ancora la lettura a casa. Era una cassetta anonima e c'erano 5 canzoni. Uno stereo 4, non stereo 8. No, proprio cassetta. La cassetta. Allora telefono a Red, dico guarda, ho trovato le 5 canzoni. Però Red sono è più rincoglionito di te. Quasi insentibili. Allora insieme al mio braccio destro Massimiliano Rosati decidiamo di fare una ricerca su internet e troviamo questo software americano. Prezzo 2500 $100 tanto bene, tanto bene, che serviva a restaurare. L'abbiamo comprato subito, certo, per cercare. Era sicuro che funzionava, cioè Verada Informatica, no, funzionava. Ci hanno mandato, insomma, pure come usavano, perché... Tu e Red, no, io e a tu e tu il braccio destro. Ho okay. chiamato Red, ho detto guarda, ci vuole un po' più di tempo del normale perché è troppo complicato. Sto ancora in americano, sì, poi era scritto, per cui, sì, no? Quindi ci hanno mandato proprio le lezioni video, perché hai una visione che normalmente nella musica non hai su un computer, cioè sembra un che ne so, qualcosa di medico, vedi, certi diagrammi, cose assurde. Quindi abbiamo dovuto ecocardiogramma, sembra. Esatto. E insomma, dopo lunghe session di questo, perché non abbiamo toccato nulla, cioè abbiamo, certo, cercato in tutti i modi. Il rischio che cancellavate pure quelle canzoni, esatto, ritrovate. E no, avevamo fatte già due o tre copie. Ah, certo, non sapevo né leggere né scrivere, come si dice. E quindi è ritornato l'originale esatto del disco che doveva io essere. Io allora mi sentirei un po'. Quale dici che volevo sentire? La canzone che era uscita all'epoca era Ma tu non ci sei più, era quella. Che poi questo disco lo composi quasi tutto. È bella, poi il packaging è molto bello. Per aprire i concerti dei Pooh, mi chiamarono. Ah sì, tu eri. Però io c'avevo un disco veramente molto da tutto. Non ti hanno richiamato adesso, sì, che si sono riuniti, no, sono per riaprire. Vederli, no. Ah sì, scherzo. E quindi avevo tutte canzoni molto arrabbiate, insomma. Stavamo parlando durante Luna, che quel glam rock sta nell'inizio di Luna, è ispirato a quel periodo storico. Bowie, è quello. Sì, da quel mondo lì, insomma. Però io avevo un disco ancora prima, molto da cantautore romano, folk studio, tutti i jazzisti. Stefano Rosso, no? No, io sono uscito prima di Stefano Rosso. E quindi non potevo andare a un pubblico di Pooh, però no, non c'avevo una lira, questi mi davano dei soldi ogni sera, pagare qualcosa. Per tre giorni dovevo suonare, sono rimasto tre anni. Adesso chiamo Red, voglio vedere se... E in una settimana ho composto quasi tutte queste canzoni. Guarda che devi avere il concerto di Pooh, cinque minuti, poi di delle canzoni, come ti sei ispirato? No, c'era un bisogno di Pooh, della pigione da pagare. Anzi, voglio ricordare, se mi permettete, come no, c'è tutto il tempo, che il fonico, che purtroppo è scomparso il 31 di dicembre di quest'anno, che era Osiride, era quello che mi metteva un microfono dentro la chitarra e io andavo con questa chitarra attaccato dentro, lo metteva dentro, direttamente dentro, e con lo scotch fuori, e da dietro del sipario c'era Red Canzian che diceva: adesso un giovane cantautore romano. Che bella storia. Pensaci, c'è i momenti tellurici dello stomaco con quel microfono che proprio stava, sì, a quell'altezza. E io poi dovevo ricordarmi tutti i testi, le canzoni che avevo composto, è scritto due ore prima mentre entravi. Ma dai, insomma, grande professionista. Allora facciamo così, l'introduzione la faccio io, la leggo dalla copertina. Per molti anni ho provato a riunire queste 13 canzoni che nel lontano 1977 dovevano far parte del mio secondo album, purtroppo mai pubblicato. Ero riuscito solo a trovare alcune registrazioni originali, mentre altre sembravano definitivamente perdute. La fortuita scoperta di un anonimo nastro audio contenente i brani mancanti ha reso finalmente possibile il restauro completo dell'indimenticata opera giovanile. Scusate il ritardo e buon ascolto. C'era una frase che ci legava, cominciava con un sorriso, e le tue unghie mangiate, il tuo gatto e l'amico che si diceva matto. C'era un giorno per ogni nostro peccato, e quel rossetto un po' strano che ora hai cambiato. Ma tu non ci sei più, per la gente giù in strada, noi con la certezza Sì, parlavamo adesso con Alessandro dall'altra parte del vetro, con Tecnico del Suono, e con Gianni qui. Non è restaurato male, era una versione stereo prima, no? Semplicemente sì, stereo, sì, non mono. Poi ovviamente c'era ovviamente i frusci, rumori, cose, strumenti un po' che poi siamo riusciti con questo programma miracoloso a portare. Non saprei riusarlo. No, lascia stare. No, adesso serio, adesso li fai con le nuove cioè, generazioni, puoi utilizzarlo. Però il sound è tutto qui. È bello, Tullio De Piscopo alla batteria, Gigi Cappellotto al bar. Basso, Gianni Toni, Red Canzian, basso, cori e violoncello solo, chitarra acustica, elettrica, slide, cori e do di battaglia. Insomma, cioè, questo è un pezzo dei Pucci, ma manca soltanto un grande Facchinetti. C'erano veramente dei momenti, me li ricordavo. Resta qui perché noi ci salutiamo un attimo, a tra pochissimo, in Voice Anatomy, e un'altra grandissima interprete della voce che ci ha raggiunti nei nostri studi. A tra poco. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, siamo qui sempre in compagnia di Gianni Togni. Mi ha raggiunto un'altra grandissima professionista, accompagnato di un altro professionista che non è ovviamente propriamente prestato alla voce, ma insomma. No, ti ho... la voce no. Lei, io non so come definirla, ci sono mille aggettivi e mille possibili. Dimmene uno carino. Ah, tu sei una delle persone più simpatiche e autoironiche che io abbia mai conosciuto e direttamente proporzionale alla tua grande professionalità, che normalmente non camminano insieme. Quando uno ha delle doti di grande professionalità internazionale, quando uno è applaudita in tutto il mondo, ecco lì che perde un attimo il contatto con la terra e te la ritrovi distaccata dalla gente, anche dai colleghi. E invece io sei molto divertente. Grazie Pino. Lei è Katia Ricciarelli, signori. Salve, buongiorno. Ciao. A tutti. Eccoli. Buon anno. Ti sei portato, non l'accompagno, ma un grandissimo che già ho avuto ospite, sì, perché è un grande regista, produttore. Grazie. Rianima l'operetta. Sandro, vero? Corelli. Grazie, Sandro Corelli. Tu venisti anche con Elio Pandolfi. Con Elio e con Enrica. Enrica Bonaccorti. Il ricordo di Sandro. Di Sandro Massimini. Indimenticato, che adesso ho visto che, senza fare pubblicità, ma si può fare tranquillamente, che in edicola, quando vedi che riescono certe cose, vuol dire che l'interesse si sta riaccendendo. E voi state facendo questo viaggio dell'operetta di Gianni Gori e Alessandro Gilleri, che è il produttore. Che, esatto, cos'è, che cos'è questo viaggio nuovo? Poi parliamo anche della tua, sì, storia, della tua vita. Beh, io sono una specie di mentore, no? Perché tu poi porto... l'operetta, tu? Sì, io l'ho fatta non molto, l'ho fatta un paio di volte. Eh sì, perché tu, sì, insomma, sei prestata all'operetta, però insomma un grande. Però mi sono divertita molto, perché c'è poi questa stupidaggine che si dice sull'operetta, che è la sorella, diciamo, sì, come la comicità, sì, che la figlia povera, la figlia povera, sì, eccetera. Io trovo una cosa che sia veramente sgradevole questa, però anch'io lo pensavo all'inizio di carriera, quando facevo esclusivamente solo opere lirica, sì, e quando poi invece me l'hanno offerta mi sono divertita molto. Ma certo, questo è come, no, Gianni, la musica leggera, no? No, sì, la comicità che è figlia povera della drammaticità, no, non è così, anzi, ma no, è come un cantante rock che canta una canzone lenta, fateci caso, diventa sempre un capolavoro, esatto, perché sì, c'è quella potenza che la esprime all'interno di uno slow, di una, sì, ballata. Poi, no? Voglio dire, l'operetta ha una grande storia, sì, ed è la vera madre dei musical. cioè, certo, è vero. Ah, certo, è diventata poi il musical. E poi tu sei diventato un grande esperto anche di quello, perché tu ti sei... Ne ho composto qualcuno. Ne ho composto qualcuno anche in giro per il mondo, parliamo sì. anche di quello. E questa cosa divertente e interessante è che porterete questo viaggio nell'operetta sì. in 5 repliche per ogni città? Sì, diciamo che cominciamo da Vienna, poi abbiamo la Viennoise, abbiamo quella di Budapest, poi abbiamo Parigi, Londra e poi veniamo anche in Italia. Ma non andiamo a Vienna, Pino, non andiamo a Vienna. Ah, a il viaggio dell'operetta. Sei già con noi. Beh, un attimo ho detto, ma perché non vi serve uno speaker che dice, come lui cantava prima dei Pooh 40 anni fa, non vi serve uno che fa allora, questa sera, una stupidaggine, ma accompagno volentieri. Fece un viaggio immaginario, fantasioso, sì. da Vienna. Tu sai bene che noi facciamo tutto con la fantasia. Ah, certo. Puccini non aveva sicuramente, non era mai stato in Cina, in Giappone, in America. Ma l'ha raccontata meglio di chiunque, come Salgari, sì, no? Che racconta le storie quindi senza essere stato. Si lavora molto con la fantasia e noi ne abbiamo molta. Tantissima. Per fortuna. Anche adesso bisogna lavorare con la fantasia anche con le banche, bisogna fare come fanno loro. Comunque la fantasia non ci manca. No, noi italiani poi questo no. No, la fantasia manca alla banca. Alla banca. Ah, quello sì, noi no. Ah, quello sicuramente, però cominciamo le prime queste le prime cinque sì. repliche sono abbiamo fare? Debuttato ieri sera ad Acqua Pendente con Vienna e abbiamo avuto un grande successo perché poi stiamo portando proprio in scena due pupilli cati a due, sì, ci due sono giovani due, artisti. Io sono una che si occupa molto dei giovani, no? Perché mi mantengo senza fare trasmissioni. Mi mantengo. Tu sei così da sempre, Ricciarelli. Ma io ho una grande vitalità, un entusiasmo ed è quello che mi porta ad essere sempre in pista, rimetterti in discussione ogni volta, ricominciare ogni giorno. E quindi aiutando molti giovani ho preso queste due creature che sono veramente bravi cantanti, un soprano e un tenore, e li ho portati, insomma, li ho fatto cantare in questa operetta e ti devo dire che hanno avuto un grande successo, si sono divertiti anche loro, perché quello che conta è che poi tu ti debba anche divertire sempre, quello altrimenti... credo che sia il motivo principale della vita, sì. cioè uno si deve divertire quello che fa, e lo dico sempre, anche un medico che sta operando a cuore aperto deve divertirsi, cioè deve ridere a crepapelle mentre taglia una aorta, per carità, ma deve divertirsi, amare quello che si fa e divertirsi. Gianni, tu il giorno che non proverai più il brivido entri in scena, non ci vai più. No, dai. Ma infatti nel momento in cui non puoi più divertirti e devi diventare un mestiere, un lavoro come tutti gli altri, a quel punto è meglio fare un altro mestiere. Esatto, cioè, ma tu quando magari ti sei stancato la musica leggera sei approdato nel teatro, il musical, certo, lì hai cominciato sì. una nuova avventura che ti stava dando nuovi stimoli, perché certo. magari la musica leggera in quel momento sì, la stessa cosa con me, che non mi divertiva più tanto fare l'opera, perché poi diventava un confronto con la Ricciarelli di 30-40 anni fa, e questo... io ho smesso anch'io così, io con l'opera ho voluto chiudere, io col Don Carlo ho detto se devo continuare basta a livelli più bassi, ho detto no, e lì e quindi hai fatto tutto anche tu, ecco. Anch'io ho fatto di tutto. Don Giovanni mi sembra Alberto Sozzo di ecco la complimento ha fatto Katia, capito? E no, invece bisogna essere, io volevo arrivare che ci vuole semplicità, che semplicità è leggerezza, non è superficialità, la leggerezza al calviniana contrario. È bella, e allora per essere semplici non si può che intonarla così. Mattina presto, cammino con aria da fortuna, so che in qualche tasca devo averne ancora una da fumarmi dolcemente, conto i passi pensando a niente, la notte ancora attaccata ai muri, vai in mille pezzi se tu la sfiori, semplice come le storie che cominciano. Semplice, che poi non è semplice fare un movimento del genere, eh. Non è semplice. Questa Questa è venuta in parallela a Luna. In Italia è la canzone che ha venduto di più. Ah, più di Luna? Sì, più di Luna. Questa l'hai fatta dopo? Subito dopo? Sì, l'anno dopo, sì, nel 1981. Difficile superarsi. Ma all'epoca dovevi fare un disco all'anno. Sì, è vero. Non c'erano possibilità. Ma poi queste erano le canzoni che, almeno questa generazione, ti accompagnavano nel rimorchio, nella vita, nella macchina, nel mangiadischi in macchina, nell'autoscontro. L'autoscontro nei piccoli Luna Park. Ah, è vero, sì. Io poi dovete sapere una cosa: io vado a Tarquinia da sempre, mentre sono tarquiniese d'adozione, Tarquinia Lido, Tarquinia paese meraviglioso, Etrusca, eccetera. E quando ero giovane, un giorno venne da me una persona e ha fatto: lo sai che ho visto su Tarquinia paese? C'è Gianni Togni. Gianni Togni, io sono la sua a cercare Gianni Togni, ha avuto 13 anni, 15 anni, lui c'ha 3 anni più di me, insomma, quanti anni avevi quando hai composto Luna? Avevo, quando ho fatto Luna avevo 22-23, insomma io ce n'avevo 18 così, e mi ha detto c'è Gianni Togni, sono a cercarlo. Mi dici perché stai a Tarquinia tu? Perché mia mamma d'estate ha una casa a Tarquinia Lido dove allora va è vero. A passare le sue vacanze, insomma. Che bello. Quindi ogni tanto la andavo a trovare. Io ho questo ricordo qua meraviglioso, sono andato a cercare Gianni Togni a Tarquinia paese, poi ma sapevo stavi a Lido, stavo giù. Stavi giù, per questo non t'ho trovato. Che bello, tu invece dove andavi in vacanza? Dove ma vai? Io non so. Vacanza non ci sono mai andata. No, no, perché quando ero ragazzina non c'erano i mezzi, quando poi avevo i mezzi non c'avevo il tempo e quindi... per questo devi mantenere giovane. Sì. Quel viaggio che stai dicendo, ieri avete fatto Vienna e Vienna, stata acqua sì. pendente, stasera ovviamente dovete riprendere riposo. Il treno, no, a riposo, no, perché no, vado a casa le corde vocali, le corde vocali si devono riposare. Ma se ne frega. Se mi piace. No, io non ho, guarda, questa sciarpa che tu mi vedi, non è che adesso non me la sono messa perché ho freddo, ma così perché fa molto sci. Fa molto so, cantante lirico. Con la Pavarotti. Esatto. No, perché poi quando escono le vedi tutti quanti che si chiudono, ma quando andiamo nei ristoranti 9 gradi sotto zero, sì, no, veramente, guardate, per essere luglio è strano, sì, questo tempo. Madonna mia, ma sai cosa volevo dire, visto che c'è Gianni, che io adesso da poco è uscito un mio CD insieme a un mio collega che si chiama Francesco Zingariello, un tenore bravissimo, e abbiamo osato, visto che io non mi faccio mancare niente, abbiamo osato canzoni cover, ma anche un inedito che è molto bello. E io credo che si possa sentire, se ce l'abbiamo, visto hai che parlato c'è... con i nostri autori. Sì, io sono una già inficiona. Ah, ma già fatto tutto, abbiamo già capito. Non mi hanno detto niente. Sì, vabbè, tenore Zingariello, sì. La Briola ha scritto la musica e solo di questo inedito, e poi c'è un bravissimo ragazzo che ha scritto oltretutto ha scritto anche due libri per me, per la Mondadori, e ha scritto il testo. Ha scritto però, per te in che senso? Per te? Al posto tuo, no? Sì, io comunicavo. Ah, lui scrive, lui impaginava in italiano corrente. Ma si fa normalmente. Perché poi ha colto, sì, si fa, diglielo. Normalmente. Sai, lui si sta qua seduto e... Sì, io sempre, ho le piaghette di Cubito io, cioè, no. Faccio questo per dire Opern di Agassi, che è stato un grande successo. Certo, gli ha scritto. Adesso non mi ricordo. Dove bene. È caduto dalla sedia. Voi non l'avete visto. Ma sono sulla piaga. No, non l'ha scritto Agassi. No, quello me l'avevo capito. Però Gianni, si mancava. Gianni, abbi pazienza. Lui sì, vabbè, non io sono sa contento quello che dice. No, lui è chiuso. È bellissimo. Lui è chiuso nel suo mondo. No, capito. Ma quando scegliamo gli ospiti, a parte essere amici, io dico no, ma Gianni è un fratello di Beccadia. Beh, la persona con cui condivido c'è tutta la televisione in maniera simpatica. Si può sbagliare, chiamare degli amici, bisogna chiamare dei nemici e parlare con loro. Allora, non ci sentiamo questo inedito. No, no, no, sentiamo solo presentalo una parte. Presentalo tu, com'è? Allora, è un passo per la libertà. Fallo da presentatrice, però fai tutto. Allora... No, questo è un 144, sì. Katia. Ciao, sono Katia, chiamami. Katia, sì, non... chiamatemi, sì, sì. No, chiamatemi. Katia, non è un porno, dai, è un orario pomeridiano, devi presentare. Peccato, ragazzi. Katia! C'avevo un po' di tempo così. Ma come un po' di tempo? Dopo c'è pubblicità, sono 3 minuti, sono pochi. Ma con loro prima che parte il treno, dai. Allora, niente. Vai, presentalo. Toni Labriola ha scritto la musica. È sempre troppo Marco, sensuale. Marco Carrozzo il testo e Francesco Zingariello mi accompagna in questa bellissima esecuzione di Un passo dal... per la libertà, pensa, perché? Perché noi dobbiamo sempre osare di più, di più, di Dio. Più, di più e non avere mai paura. Vai. Ti voglio. Ascoltiamo il passo a libertà e spegni, fallo durare 7-8 minuti. No. Io e la Ricciarelli ci abbiamo da fare. Noi usciamo. Vai, voi uscite un attimo. Sì, andiamo. Vai. Tiriamo le tende. Scusa, Togni. Comincia. Vai. Sul filo va. Sanremese, sembra un Bocelli dannata, cioè nel senso buono del termine, ovviamente. Cioè, veramente cantò un pezzo e la nave va. Sanremese, sì, molto, sì. Infatti, l'abbiamo sentito, italiana... l'abbiamo portato a Carlo Conti che non l'ha voluto, certo, perché non l'aveva capito. No. Forse non ci siamo spiegati. No, ma va bene così. No. Certe cose possono anche esulare da Sanremo, un pezzo tranquillamente. Bellissimo. Sembra anche un bel musical. Sì. Un pezzo dei Miserabili a un certo Gianni, punto. Un Gianni, musical. Su sta canzone che l'hai scritto te. Cioè, è bello. No, che no, fai? Fai un musical, dai. Sì, adesso quando, mentre guarda, decidono che musical andare, noi dobbiamo andare in pubblicità invece. Ecco, intanto noi facciamo. Voi dobbiamo cominciare quello che abbiamo aperto, quel discorso di prima, che non mi dispiaceva. Prego, a tra pochissimo. Voice Anatomy. Voice Anatomy. Come promesso, eccoci subito di ritorno dopo il traffico. Katia Ricciarelli e l'amico Sandro Corelli al mio fianco destro, al mio fianco sinistro, sempre. Stavamo parlando. Sì, ma c'è problema. Live. Gianni Togni. Sì, no, no, si mette d'accordo, non esisto io per loro. No, no, però non c'è considerazione. Non è vero. No, perché no, no, ma sono offeso, sono offeso. Io sono qua però per il pezzo, te. Sì, dimmelo in un altro modo. Io sono qua per te. Abbassa. Sono qua per lui. Metti più fiato. No, questo è asma. Dai, Katia, tu di voce te ne intendi, ti prego. Dai, ma tu hai fatto. Quando ti sei accorta no, di avere invece, una voce? Aspetta, però ti voglio fare un complimento, ma serio questa volta. Prima stavo là e ti sentivo parlare, e ti assicuro, l'ho detto a lui: ha una voce bellissima. Potrei fare il doppiatore, ma, ma alla grande. Sì, sì, infatti ho deciso di farlo da 35 anni, ma non con la voce bella. Ma no. Servono le belle intenzioni, tu lo sai, Katia, per tranquillizzare anche la gente all'ascolto. Servono le belle intenzioni, beh, no? È una voce bellissima, io vorrei che un uomo mi parlasse con una voce del genere. Sì, ma certo. E poi lo abbracci e non succede niente. Io così ho conquistato mia moglie. Ecco, ho detto, quali sono i tuoi attori preferiti? Denzel Washington, l'ho doppiato. Ora... Qual è l'altro? Jamie Foxx. Ah, bellissimo. Keanu Reeves, ho fatto, ok. Al buio ero perfetto. Poi, dopo non ero loro. Accendere la luce. No, esatto, non ero più loro. You are fishing for compliment. Quando sarei mente l'altro proverò a parlarti così, magari. Sì, così però è afono, così così. Sì, ma così io provo una pastiglia. Che ti piace di un uomo? A questo punto andiamo inside, Ricciarelli. No, io ti giuro quello che assolutamente chiedo è il divertimento, la simpatia. Divertimento, la simpatia e l'intelligenza. Poi se è brutto non fa niente. No, come? Ma no. E allora io so, quindi so Pino, tutto. Vai bene. Io vado bene. Ma tu sei un mio amico da 30 anni. Abbiamo scherzato troppo. Facciamo le cose serie. Tu sei all'anagrafe Catiuscia Maria Stella Ricciarelli di Rovigo. Sì. Catiuscia, leggo che sei Catiuscia con la C, con la C, sì, no? Ma senza lei, Catuscia. Ah, Catuscia. Sì. Per quale motivo? Perché la mia mamma si era innamorata di Resurrezione. Certo. E quindi lì c'è Catiuscia, che però non potevano mettermi allora quando sono nata, ahimè. Che il nome dico, russo, ecco, troppo nome, russo. No, niente, bisognava italianizzare questo nome, è diventato Catuscia. E quando hai scoperto di avere una voce? Chi ti ha fatto fare questo percorso? Cioè, tu non sei figlia d'arte, no? Sei... No, la mamma aveva bella voce, però sì, assolutamente però, insomma, non aveva... cantava. No, non cantava, doveva lavorare per mantenere, perché è rimasta vedova prestissimo. Ah. E niente, da sola, perché cantavo in mezzo ai sacerdoti, le suore. Oh, che bella vocina, facciamola cantare, signora, faccia cantare sua figlia. Sei cresciuto in mezzo a suore e freddi, praticamente. No. No. No. Però, insomma, ci andavo qualche volta anch'io. Certo. Allora ti facevano fare la recitina. E da lì poi il conservatorio, a parte le scuole d'obbligo, sì, ovviamente. Poi sì, sono andata a Venezia e ho fatto parecchi anni di conservatorio, mi sono diplomata lì. E qual è stato il tuo startup? Leggo, sapevo che era la Bohème, non sapevo che era il 69, sì, cioè, quindi sono tanti anni. Sono 47 sì. anni fa, tu Dio hai buono. Debuttato di... a Mantova, nella Bohème. Sì. Come stavi in quel momento? Che è successo? È successo che ero piena, logicamente, di esuberanza, perché sai, l'incoscienza poi dei giovani che... vanno in palcoscenico, sul palcoscenico, e non sanno nemmeno, insomma, quello che succederà, perché potrebbe succedere di tutto. Ci vuole l'incoscienza. Sì. Dopo no. Grande preparazione. Qui leggo, per me il Natale erano i Ricciarelli, sì, scomparsi. Ora sono tornati e brava Katia, grande donna e artista. Tanti complimenti anche per te. Non li ho grazie. Letti prima perché pensavo che si era bloccato gli sms, ma tantissimi ma complimenti. Ma volevo dire a questo signore simpatico che a me non piacciono i Ricciarelli, no, perché sono troppo secchi. Vabbè. Però io mi vantavo, no, perché sono buonissimi, sono buoni. Sono troppo secchi e troppo dolci, però mi vantavo di essere parente di questi Ricciarelli. Di signori, sì, senza loro la possibilità magari che economica. Buon partito. Ottimo. A quel punto, tu invece quando hai cominciato è stato dietro le quinte, cioè prima dei Pooh, quello che abbiamo raccontato prima? No, io già suonavo al Folk Studio. Ah, quello storico, quello c'era storico. Già Venditti, De Gregori. Come no? Beh, certo, ma loro erano già... Erano per già me delle star, insomma. Però erano ancora Folk Studio, insomma. Sì, ancora Folk Studio non hanno fatto, fatto Theorius Campus, Venditti, per cui ancora l'inizio. Sì, all'inizio. E poi De Gregori ebbe il grande successo di con Rimmel. Alice non lo sa. Ah, Alice fu il prima, prima di Rimmel, sì, per cui ancora non erano esplosi, no, no, grande e, pubblico. E Venditti mi pare che avesse fatto Roma Capoccia, però. Già Roma Capoccia, sì, ma guardare con quella faccia. No, dire, no, perché sì, sto cercando di ricordare. No, perché lui sa che siamo di due squadre contendenti in questa città. Lo mi guarda Roma Capoccia. Roma è Roma, no, la Roma. Roma. Roma, io ho detto Roma. Roma, lo so, lo so, lo so. Tu lo sei so. Della Roma? No, no della Lazio. No. Sentilo subito. Cioè, no, parliamo no. di lirica internazionale, Gianni che esordisce. Lui è regionale. Musico. Diciamo. Io sono, lo dico sempre, si no, vive perché... in una società multilaziale. Basta. Esatto. Basta. Basta così. Non sono anche risultati che cosa sta succedendo. Non lo so neanche io. Dopo ci collegheremo con Mai Una Gioia, che è la trasmissione che viene dopo di noi, che è tutti convocati, il grande capuano, che però ogni volta che lo sente Mai Una Gioia, o c'è rigore per l'altra squadra o la mia squadra ha preso un gol, volte. Però noi lavoriamo la domenica dice anche per questo, per cui Folk Studio anche tu in inizio studio, bello comincia, io com'era l'aria che si respirava, a parte si fumava mentre si guardava, per cui c'era un'aria, tutti fumavano, tutti, era un bancone all'esterno. Quanti posti era il Folk Studio? Perché si parla sempre di questo era, Folk Studio a Roma. Era vago, perché stava aggiungendo le sedie. Certo. Cioè, il numero... 100 posti, 80. Io andavo il pomeriggio, la domenica pomeriggio, durante perché ero Brusco-Linaro. Minorenne. Ero minorenne, quindi potevo andare solo la domenica pomeriggio a suonare. Bello, però è stata una grande palestra, perché ogni settimana dovevo portare devo cantare una canzone della settimana prima più una nuova e così via. Sempre, cioè, due però, da cantautore. La prima volta due nuove. Poi, due nuove. Cioè... Tu fai sempre di corsa le cose, guarda che sei forte. No, e quindi, beh, ti aiuta a lavorare tanto, insomma. Ma poi è bello, insomma. Poi nel senso che non si perde il tempo. No, ma non bisogna perdere. Infatti credo che le canzoni più importanti nascono sempre di getto, più o meno. Quando dici per noi innamorati, che è il mio pezzo che nel mondo ha venduto di più, l'ho scritta in 6 minuti. Cioè, durante, cioè, una cosa veramente sei minuti per noi innamorati, sì, perché non doveva, una storia non doveva far quanto parte venduto dell'album. Perché fa dei numeri, fanno dei, prima no, faceva dei numeri per noi innamorati pazzeschi. Stai parlando di 7-8 milioni di copie, cioè, capito, c'è da morì, sì. Tutto il mondo. Sono tutti silenziosi, siamo rimasti 7-8 no, milioni. Stavo a pensare a fare cose. Secondo me il silenzio era stato aperto un attimo. C'erano 1.000 lire a copia. Secondo me il pensiero va là. No, però è tutto il mondo, in tutto, sì, il mondo, tutto il mondo. Tutte le, che poi i diritti, insomma, sono strani. A quell'epoca parlo con Bobby Solo, con loro, dico, abbiamo 200 milioni, ma i soldi, ma lascia stare. Lascia stare. Sì, diciamo che c'era una grande leggerezza e fantasia. Ecco, diciamo, non calviniana, però, no, una leggerezza non calviniana. Non ce la sentiamo per noi innamorati? Ce l'abbiamo? L'abbiamo scaricata? Scaricata è una cosa brutta, nel senso, dal disco originale abbiamo preso e portato la track sul desktop del computer di Alessandro. A proposito, abbiamo anche un sito Facebook, ve lo sapete, no? Mettete, siete 200.000, ma mettete un mi piace se non vi piace, no? Mettete. Sa cos'è l'infinità? Cos'è che manca a questa notte bianca? A questa vita che cerchi e sei perduta? Che più ci vuoi parlare e più diventi muto? E quando piove, uscire e camminare, noi due abbracciati come alberi bagnati. Amore mio, il mondo è quel che è tutta un'avventura, ma io non ho paura. Adesso ne hanno fatto una versione salsa, sì, no, in Sud America, sì, ma bellissima, con tutti i fiati, penso sì, non so. Frotros innamorados. Sentire, si chiama Tan innamorados. Ti lo chiedo alla Navarro, che no, sa lo spagnolo. Spagnolo, hanno fatto Navarro, una versione pazzesca. Per noi innamorati. Salsa, come hanno fatto. Salsa è una speranza. Tutti i fiati incredibili, ma arrangiata benissimo. Guarda se si trova un attimo. L'hanno fatta sentire in sala di incisione quando sono andato. Ma in questo caso ti devono chiedere il permesso? No, perché fanno una versione esatta a quella che... Se invece vogliono cambiare le note, eccetera, mi devono chiedere il permesso. Scusi, signor Togni, bellissimo. Possiamo. 6 minuti il tempo di fare questa canzone, il tempo di cottura di un uomo sodo, bravo. autocritica e ridere se stessi sono sinonimi di intelligenza e sicurezza. Bravi Gianni e Katia, saluti da Francesca, grazie Francesca. Come ma no, perché non è mica essere superficiali. In breve, sì. E poi uno strano l'ho composta di mattina. Che anno era questo invece? Anni 80? 83, mi sembra. Inizio 80. Perché alla CGD, che era la mia casa discografica, mi chiamò il direttore generale. CGD, mai dimenticato, Sandro Delor, il quale mi disse che, sai, il disco nuovo secondo me non ha un singolo non forte, tu sei al top, non te lo puoi... Io dissi, vabbè, guarda, non ti preoccupare, te ne faccio uno, ma tu fai sempre così. No, ho detto, guarda, va bene, adesso vado al pianoforte e fissami la sala di incisione per dopo domani. E sono andato a Milano, io l'ho e fatto il pezzo che ha venduto più di poi, tutti poi, sì, con Guido Mora ha scritto il Guido testo, Mora, però, vero, bravissimo, aveva scritto, insomma, Il gioco del mondo, che è anche un grande romanzo di Cortázar, insomma, mi sembrava un po' troppo complesso. Il gioco del mondo si intitolava in origine. Il gioco del mondo sei tu, Mi sembra troppo, però tirare dentro, perché noi siamo, non dico di amore e cuore, però di letteratura. Allora a quel punto io arrivato l'ha buttata lì, sì, ed è andata, esatto. Per noi innamorati, ma sì, la semplicità, la semplicità. No, non però mi fai uno dei gesti, sei uno dei, pochi, beh, non sapete, sei uno dei pochi comunque che ha superato se stesso in crescendo, cioè normalmente si fa il grande successo indimenticato come Edoardo Crescenzo, che secondo me è un grandissimo, sì, e spero di avere presto lui qua, come è stato l'altra settimana Enzo Avitabile. Dico, ecco, fai ancora, poi superarlo non è facile, anche se lui secondo me l'ha superato con tanti altri pezzi meravigliosi, ma quello ti segna e rischi di diventare, sì, anche schiavo. Non lo di... so, io continuo a scrivere e continuo a non riscrivere quello che ho già fatto. Sì. È questa la... Dove si fa se no l'uno e un quarto, l'uno e mezza, l'uno e due meno dieci. Anche perché se tu senti tutti i miei dischi, ognuno è diverso, da un altro. Sì, sì, è vero. E poi a un certo punto ho collaborato con Peter Gabriel, con Manu attenzione, Cacchietti. Attenzione, dobbiamo andare però in pubblicità. Abbiamo trovato la versione salsa. Cioè tu dici, sì, una cosa, dall'altra, dai, parte... Sono bravi. Succede... È questa. Ed è Katia Ricciarelli che canta. No, ma scherzo. Magari. Dai, bello, gli ha dato una rinfrescata. Quest'anno Ballando con le Stelle, secondo me. Sì. Questa sembra una rimpatriata da Paolo Belli, che è uno bravo in questo. Allora andiamo in pubblicità e adesso cerca qualcosa di bello che ho fatto nel cinema come attore. Voi adesso lo trovi, secondo me non ci riesci. Andiamo in pubblicità, tra pochissimo. Voice Anatomy. Eccoci, bentornati signori. Mentre Katia e Gianni si stanno mettendo d'accordo sul prossimo musical da effettuare con la regia di Sandro, spero, Corelli, arrivano i complimenti a Corelli per l'impegno per l'operetta. Un paio di messaggi che vuol dire, grazie, che ce ne sono almeno altri 2000 che la pensano in questo modo. Ma un altro, veramente sono pazzi, i nostri ascoltatori sono intelligenti e anche un po' pazzi. Se la Ricciarelli si lasciava accostare alla famiglia dei dolci, togni mica quella dei domatori. Cioè, vabbè, dai. No, cugino del leone. Esatto, da Ristogni, eccetera. Una volta negli anni Ottanta in auto ho fatto l'amore a lungo, quasi come una canzone dei Togni. Mi dispiace, Luca. Cioè, se erano sempre 3 minuti e 20. Vabbè, dipende da quando calcoli, va bene. Lo vedi che è una radio poco seria questa? No, no, no, loro giocano. Se sapessi come sono attenti, signori, qui di Radio 24. Noi li alleggeremo un po' il sabato e la domenica, perché dopo una settimana magari di grande cultura, di grande finanza, giustamente si lasciano accoccolare da queste trasmissioni come quella quando di Ruggeri. Le borse sono chiuse. Le borse sono chiuse. Pino, chiedi a Gianni, me l'ha mandato 3 volte Orlando da Sabaudio. Poi Orlando da Sabaudio sembra, sembra uno a cavallo, uno di 300. Sono Orlando da Sabaudia, verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo il giorno. Pino, chiedi a Gianni della partecipazione con Max Tortora che faceva l'ispettore Derrick. Che è? Ma non ero io, non era un imitatore. Era un imitatore. Infatti, a un certo punto volevo denunciarli perché tutti pensavano che fossi. Ma io stavo addirittura stavo in quel periodo. Stavo a Stoccolma a fare un musical su Greta Garbo. Pensa come sta attaccato. Ha fatto il musical, è vero, GNG. Allo Staden di Stoccolma. In stoccolmese, come l'hai fatto? L'ho fatto in svedese per forza. Sì, l'ho fatto GNG. Sì, Greta Garbo. In svedese. Paroliere era una. Era, tu l'hai era fatto. La traduttrice di Dario Fo. La stessa traduttrice di Dario Fo ha fatto a livello filologico, beh, insomma, era da stato un anno e mezzo in scena, insomma, è stato un grande... Bella queste cose. Non portabile in quel dell'Europa del Sud. Guarda, doveva la scenografia l'avevano costruita all'interno del teatro e dovevamo, certo, andare poi in... doveva andare in Norvegia. Non usciva la scenografia dal teatro. Niente male. Se la dovevano tagliare era un macello. Costava. Perché c'era questo immensa cornice che si spostava già elettricamente, che si alzava, si abbassava, per cui non era trasportabile. Rifarlo costava una cifra folle. Finita l'avventura a Stoccolma. Dopo un anno e mezzo è finita l'avventura. Non è continuato. Mi stanno richiamando adesso per un nuovo musical, per una coproduzione svedese e finlandese, però fa freddo adesso. Adesso se sta meglio lì, è meno umido. E Katia, tu canti in altra lingua, immagino, non soltanto in italiano, no? Beh, no, inglese, francese, tedesco. Cioè, Stoccolma è svedese? Non no, riusciamo? No. È molto difficile lo svedese. Beh, lo so. ci sono molto gutturali. Quando noi abbiamo fatto il CD, ce l'hanno fatto a noi, i miei suoni tagliavano tutti quei rumori, pensano fossero rumori, non riesco a capire come lo svedese, invece non erano suoni, loro fanno così. Sì, sì, per hanno questo. Sì. Ah, come fanno? Per dire? Cioè, per dire sì, vabbè. Che fa freddo. Che è tutta gente che sta con l'enfisema, è quello. Che freddo. Visto, ma... c'è gente, è sì, così, sì, sono molto gutturale. Mi è capitato mai, credo, di doppiare un film svedese, per cui non, no, perché non, a parte Bergman eccetera, non conosco sì, altri, sì, per cui cioè, succede qualcosa, insomma, no, per no, carità, da quelle parti sicuramente, ovvio, Bergman. Però non mi è mai capitato, non ce l'ho proprio in testa il suono della è bella lingua. È abbastanza musicale come lingua, certo, un po' difficile. Si trova qualcosa di G&G no, in svedese? No, oh, grazie. Non credo, oh, grazie, che voglio sentire, non credo, sta botta ce lo facciamo noi. Troviamo qualcosa anche però inerente l'operetta. Cioè, quello sì, sicuramente. Tasce labbro con Cadia, magari. No, no, io so una cosa bellissima. Dopo ci siamo visti con quella serata magica in onore e in ricordo dell'indimenticato Sandro Massimini. Tu stai facendo risorgere, a parte questa bellissima avventura con Cadia, che è un talent d'eccezione, sì, perché è un grande personaggio della lirica che ritorna all'operetta rivalorizzandola, dicendo ok, non stiamo parlando di opera minore, ma stiamo parlando di quella che ha riempito i teatri di tutto il mondo. Ma stiamo parlando di quella che giustamente diceva Gianni, che è la madre della commedia musicale e del musical, ma che in Italia continuiamo a volte a dimenticare. Per cui rinasce adesso la compagnia Sandro Massimini? Ma per noi, per me è già rinata. È perché, già rinata? Sì, perché noi abbiamo, grazie ad Alessandro Gileri, che è il nostro produttore e l'autore con il maestro Gori, è rinata la prima compagnia Sandro Massimini Trieste. Quindi il nome di Sandro ci accompagnerà, sì, perché di Sandro veramente nell'operetta ce n'è stato uno e non ci sarà un altro Massimini. Persona strepitosa. Come un Pandolfi o... Sì, che c'è ancora. Grande, esattamente, grande, esattamente. 90, ha detto... Sì, sì, ma sì, poi, no, grazie a Dio. E abbiamo... Sì, è fatto questo spettacolo e poi saremo a Roma l'11 e il 12 adesso? Al Teatro delle, sì, Muse. A gennaio? Esatto. Ah, proprio adesso, insomma, mercoledì. Esatto, mercoledì, no, e giovedì. Il 12 saremo Teatro a... delle Muse, dove io ho debuttato tantissimi anni fa, che bel ricordo, sì, quello vicino a via Forlì, se non sbaglio. Via Teatro Italia, più o meno, sì, quella sì, zona. Via, sì, via, esatto. Forlì, guarda. E poi al Tor Bella Monaca, poi saremo al bellissimo Manzoni. Bellissimo teatro, una zona bellissima da rivalutare. Esatto, e poi arriveremo nella patria dell'operetta, perché ogni volta con uno spettacolo arriveremo a Trieste. Dove? Trieste, io credo, lasciamelo dire, certo, è una civiltà mitteleuropea eccezionale. A Trieste. Cioè, a Trieste e tu vanno a vedere Shakespeare come la premiata ditta, come l'operetta, come l'opera omnia, sì, di... I teatri sono pieni, i sempre, cinema anche, sempre. E sono persone attentissime. E sono molto attenti. C'è un'altra, sì, sì, c'è una cultura molto più... pensare una lancia a favore del Nord-Est, e ve lo dice un centrista, non esatto, politico, ma un centrista nato, dove veramente il Nord-Est dell'Italia... È il punto dove, a livello culturale, a livello di soddisfazione teatrale, è quello che ti dà più soddisfazione di tutti. Non si è, sì, d'accordo? Sì, ma io sono stata spesso a Trieste, devo dire che è un pubblico attento. Sì. E poi, insomma, sono non me ne molto, no, molto, no, no, molto colti sono. Sì, sì, ma sì, l'intelligenza è anche quella, cioè andare a ridere con grande semplicità, sì, e andare a impegnarsi il giorno dopo con uno spettacolo. Magari. Sì, però se è un triestino, lì si parla di operetta, allora lì sono dei maestri. Quindi arriveremo ogni volta a Trieste. E poi abbiamo anche dei progetti, perché a Trieste il famoso Castello di San Giusto, che noi vorremmo riaprire e far risorgere appunto con l'operetta, perché Massimini, quindi l'operetta, questa grande cultura, e vorremmo fare anche questa operazione pieno per far riavvicinare i giovani all'operetta, perché se tu prendi un giovane di oggi e gli chiedi che cos'è la Vedova Allegra... Pensa che uno sia morto un marito, sì, non l'ha presa male. Esattamente. No, no, è così, è così. Esattamente. No, dice, esattamente. A un ragazzo dice Nino Manfredi, dice, con chi giocava? Non esatto, è così. Esatto, no, esatto, è quella esatto, la cosa brutta, il ricordo. Sì, bisogna... Esatto. Tenere vive certe cose che non ci sono più, sì, e non ci saranno se non c'è possibilità a questi giovani. Ma senza, sì, scorciatoie, sì, sì, televisive. Guarda, non Cadia, ti giuro Pino, ti giuro, ti dico questo in 30 secondi perché so che il tempo qui... No, no, qui i tempi si può parlare, no, no, Dio, ti assicuro, io sono andata a teatro a vedere delle opere logicamente negli ultimi tempi e sono rimasta sconcertata, perché che cosa ho fatto? Ho guardato intorno e ho visto che la media era quella dei 60-70, anni. Certo. Pubblico, insomma, non posso dire vecchio perché è un pubblico che può anche avere la mia età, non voglio offendere nessuno, però non c'erano i bambini, non c'erano i ragazzini. E allora cosa ho fatto? Sempre con questo Marco Carrozzo, che ha scritto il testo di quella canzone e del mio libro, abbiamo scritto un libro che ce l'ha chiesto peraltro la Mondadori, dove io spiego favole come fossero favole, le opere liriche ai bambini delle scuole primarie. Molto bella questa, bella questa idea. È uscito, guarda, tenetelo, anche farò avere perché sarà un piacere anche ne parliamo, leggere. Non sei di passaggio eccetera, sì, ne parliamo volentieri perché e si chiama Vi canto una storia. Quindi, bello, ai bambini magari, sì. Abbinato anche un CD non sarebbe stato neanche male, ma no? Lo faremo perché adesso stiamo lavorando molto in questa presentazione di questo proprio, sì, ai bimbi di questa, esatto, cosa uno che rischia sono, di avere paura loro sono entusiasti di vedere, non so, il sì, teatro come è fatto, le è tende, favola. Il rideau, il direttore che dirige, quelli che cantano rimangono a bocca aperta perché dicono ma cosa fanno questi, sì. Allora anch'io posso cantare così. E i talenti, se no, come escono fuori? Soprattutto un'educazione musicale aiuta pure questi ragazzi a crescere meglio. Un, certo, avvocato, lo dico sempre, che suona il pianoforte, sarà un avvocato migliore. Certo. Un ingegnere elettronico che sa cantare sarà un ingegnere sicuramente con più fantasia, cioè, sarà migliore. Io non voglio parlare per me stessa, però dico che tutti noi senza la musica siamo degli esseri proprio. Sì, sì, il problema è rendere più facile. Allora, molti ragazzi, molti giovani vedono il teatro in generale come un tempio, che è difficile da entrare perché c'è la cultura. Ma Gianni, che chissà, la musica lirica è nata per il popolo. Sono d'accordo. Faccio, noi ne abbiamo fatto un fatto Shakespeare. Ora sono abituati a delle strade molto più brevi, molto più illusorie, perché magari, esatto, basta fare due passaggi in televisivo e pensano che tutti sono arrivati e l'anno dopo quei ragazzi non li vediamo quello, più. Sta finendo anche quello, anche senso quello che sta ormai morendo. Esatto. Però il problema è cercare di rendere tutto un po' più semplice. Nel, certo, senso, è vero, andare a teatro. Il teatro deve essere aperto dalla mattina alla sera, devi andarci a fare la colazione al mattino. Ma sì, devi, ho capito, a però per quanto, cioè, riguarda i bambini, sono i genitori anche. Non diamo sempre la colpa ai docenti, agli insegnanti. No. Il genitore che dice: stasera, sai, fanno la prima la Scala e c'è, che ne so, il Tristano Isotta. Dai, andiamo, magari portiamo anche i bambini. I bambini si sparano. Sì, perché hanno paura. Andate a vedere le opere giuste con i vostri, certo, figli. Certo. Infatti, Katia, l'operetta, io ora stiamo lavorando a un progetto, Pino, una nuova produzione del Paese dei Campanelli, mm-hmm, che io lavorerò a riambientare come se fosse la fabbrica del cioccolato di Johnny Depp. Voglio far diventare il Paese dei Campanelli una favola Balocchi, da poter, certo, proporre, certo, anche ai bambini, perché devo trovare quello, il come mezzo Pierino il Lupo, no? Per che arrivare gli strumenti. Alla vuole. E volevo dirti che, dimmi, con noi c'è un grande veterano dell'operetta, perché è un triestino doc conosciuto, è Andrea Binetti, perché Andrea Binetti anche lui è nato con me 30 anni fa nella scuola di Massimini e diciamo. Ma tu canti, Sandro? No, sei un regista. Ci ha pensato. Ho studiato canto con Sandro, cantavo, poi le cose non può fare troppe cose. Io adesso mi diverto molto a stare dietro. Poi lavorare ad esempio con Katia per me è un grande onore, perché ti ridà vigore, bambina non, così. No, onestamente non avrei immaginato, anche se è uno spettacolo di avere accanto un personaggio come Katia e dirle magari: Katia, guardi, devi spostare a destra, devi fare. Ma lei lo fa, pensa. Ma lei lo fa non perché è una grande donna. Sì, è una grande professionista. Perché magari un'altra mi avrebbe detto: tu stai zitto. Invece, esatto, io te lo dico. Lo dico veramente perché. La gente ama. È vero. Cioè, ormai l'ha apprezzato ovunque. No, 360 ma diciamo gradi. Che sono una professionista. Basta. Sì, se uno mi dice: quando ho fatto il film con Avati è stato, esatto, così. Hai vinto pure il nastro d'argento. Io non è che ho mai cantato lirico. Tu perché sei venuto a fare il mio mestiere? Hai vinto il nastro d'argento. E io ho fatto solo mezzo destro, mezzo sinistro. Però io prendevo consigli anche da Albanese e da Neri Marco Re, anzi li cercavo, certo, perché per me era un fatto nuovo, una cosa nuova. E beh, hai vinto, hanno fatto due consigli e hai vinto il nastro d'argento, capito? E ti è ciappa. Ciappa, hai capito, simpatica. Grande Togni mi dice questo messaggio. Ricordo un tuo intervento a scuola, anzi un suo, perché ti ha detto lei, all'Armellini di Roma, più o meno nell'85. Ci furono degli incidenti politici, ma lei ne uscì alla grande. Le sue canzoni hanno lietato la mia adolescenza, felice di sentirlo intellettualmente attivo. Beh, capito? Questi sono messaggi mandati da uno, questo ha due lauree. non lo so se c'ha, non legge, non è che c'è scritto se, de, se c'ha due lauree. No, detto, un bellissimo messaggio. Bellissimo. Senti, l'ispettore Derrick invece ho capito che messaggio mi sta. C'è un'altra persona che dice: ma si può imparare a cantare essendo afoni? Un altro no, messaggio che si è perso. Di no. È difficile, no. Dipende che tipo lo di dici problema. Dici tu o lo dico io? Ditelo tutte e due. Diciamolo tutte e due. Se si è afoni dipende qual è il motivo. Se beh, c'ha appunto, dei noduli. Se ha cantato male e quindi ci sono dei problemi piuttosto seri, è meglio andare da un otorino e vedere la causa. E Diego poi... Cosso a Torino, che è un nostro latte caldo, miele, caramelline, sì, queste Alici, cose qua. Cortisolo, se fa niente. Propoli, sì, sì, no, dipende, bisogna fare un'analisi. Signori, a tra pochi... noi questa pausa è quella più lunga? No, ancora no. Va benissimo, a tra pochissimo con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci, come promesso, la pausa seguente sarà quella del GR, per cui saremo un po' di minuti staccati da voi. Carissima Katia, il Teatro La Scala ha un programma apposito creato per portare i bambini della scuola primaria e secondaria a teatro, lo so per certo perché se ne occupa mia moglie, dice Giordano. Bene, bene, questa bene, è una bellissima notizia. Benissimo. Parliamone, caro Giordano, manda i tuoi riferimenti qui e magari parliamo di questa cosa perché ha attinenza completa con Voice Anatomy. Operette, sì, l'anno 17 c'è amico. Lui, vabbè. Pino, la vedo allegra, è un ragno che ha preso la ciucca. Vabbè, è una sera ero al Risto con una mia compagnia, con una compagnia giapponese a Bergamo e si stupivano del fatto che io e gli amici conoscessimo le nostre opere. Ciao Luca. Vabbè. Che vuol dire? No, che questi cinesi, magari i giapponesi conoscevano perfettamente le nostre opere, ah, sono stupiti c'è. Che noi italiani conoscevamo le nostre. Certo, no? Sì, infatti. Allora... per favore aiuto, entro in casa solo adesso, chi sono col K? I meravigliosi ospiti che parlano di teatro. Allora, alla mia sinistra c'è Gianni Togni, che teatro, musica e quant'altro. Che è appena entrato a casa, dobbiamo dirlo. Gianni, giustamente, devo ricordarlo. Katia Ricciarelli è accompagnata dal bravissimo buonasera. Regista Alessandro Sandro Corelli. Bentornata a casa. Bentornata a casa, sì. Ecco, no, ma è giusto, ma sono tanti i messaggi, per cui bisogna ricordarli tutti. Carissima, qual è stato il momento più difficile della tua carriera? C'è stato uno sliding doors negativo dove hai detto smetto, me ne vado, no, oppure chi me lo fa fare, oppure perché? No, smetto proprio mai. No, mai. Però ci sono stati degli alti e bassi come succede perché siamo degli esseri umani e poi insomma... E quando hai capito invece che sarebbe stato il mestiere della tua vita? Che sarebbe... Da sempre, da sempre, da quando avevo 8 anni. Ho detto io voglio fare la cantante perché avevo la voce logicamente, perché cantavo sopra gli alberi, perché mi vergognavo, perché avevo questa voce che era è stata la più lirica. Grande cantante sopra gli alberi, infatti se sì, ne parla di te. Tu eri Robin Hood, veramente cita, cercavo il mio tarda, la cita della lirica italiana, cercavo il mio tarda. Sei sposata qualche volta? Io? Qualche volta? Una, due? Una volta, una. Ah, solo una volta? Solo una volta, mi è bastato perché... Benissimo. Ma no, insomma... Ecco. Va bene, durata... Però, no, no, vabbè, non detto, vogliamo entrare nel gossip. Per carità, no, non è detto. Cosa, però non è detto, insomma... Tu hai figli, Katia? Non ho figli, quindi... Sì. Non è sto detto. Facendo pubblicità. No, non è detto, non lo so, anche quello non lo so. No, non è detto, stai guardando. Tu sei un'eterna bambina. Tu perché quella cosa che hai detto all'inizio è l'ironia, è il divertimento sì. Che ti mantiene e ci mantiene così. Perché sono dice, non è facile, no, non è facile, non è facile per nessuno, non è perché una persona è famosa, conosciuta, no, non ha momenti di grande certo. Debolezza, i momenti sono direttamente proporzionali all'intensità di come li vivi poi. Esattamente. Pino, per cui, non è facile quando tu vai a casa e chiudi la porta e sei da solo, ma io non sono da sola perché ho una cagnolina. Io non sono sola come un cane, ma con un cane, quindi, però ci sono dei momenti lo sai in che cui è un titolo uno... bellissimo, fermati, non sono sola come un cane, ma sono sola con un cane. È un titolo bellissimo. Tu non parlate di titoli lunghi perché è il tuo primo. Per favore, tu senti il titolo del suo primo disco. Che non era il primo, ma era il terzo. Il terzo, vabbè. Cioè, è il disco più importante. E in quel momento, entrando in un teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento. Era il titolo. Che sentito? Che video? Commedia. Scusi, è uscito mi invento il corso che è entrato sul palco De Coso. De uno. Ma quello che si è, quello che adesso è uscito del Leone, da, esatto. Comunque Pino, fatti dire da Calia, perché lei ha debuttato nel Paese dei Campanelli. Sì, avevo 8 anni e allora c'era la televisione in bianco e nero, mi ricordo, c'era già televisione, però c'era. La Garra c'era, sì, cioè, non lo so se c'era nel 60. Ma no, io sicuro. Ti parlo di quando avevo 8 anni. 8 anni lei? Sì, pure bianco Garra e nero. La Garra c'era, non so, già 21. Adesso io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, basta, basta parlare di età. Insomma, avevo e facevo Luna, tu non sai dirmi cos'è, pra, pa, pa, pa, pa, e sculettavo. No. Però sì, non volevo dare il bacetto al mio partner di allora, certo. Perché pensavo, allora adesso no, adesso ne sono convinta, prima lo pensavo semplicemente, che la televisione fosse un luogo di perdizione, quindi non si può baciare qualcuno, no. Adesso sei convinta invece, adesso sei convinta che sì, lo è. Poi l'hai fatto allora, pure infatti questo. Ho detto adesso sono convinta. Sei convinta perché l'hai fatto, e quindi cantavo il Paese dei Campanelli e poi con quello sì. Può tornare a fare il Paese dei Campanelli, sì. Campanello sì. Senz'altro. La campana, no, che fa? Lei avrebbe un ottimo ruolo nel Paese dei Campanelli. Oddio. Ce l'hai. Sì. Beh, sarebbe una Pomerania strepitosa. Pomerania, come dimenticare, ecco, una... già come... una che si chiama Pomerania. Come dimenticare Pomerania? Allora... Pomerania, come sta? Pomerania, poveretta. Aveninchi è stata una Pomerania che ha lasciato il segno. Che cosa quindi mi voglio stai dicendo, Aveninchi? Guarda, quindi... Non si potrebbe cambiare questo Pomerania. Cantava perché... la grande Aveninchi? No, che... però, dato che Campanelli è un'operetta che si può anche leggermente recitare, cambiare. Quindi, nel prossimo Paese dei Campanelli, Calia, potremmo fare due pezzi scritti magari da Gianni. Non puoi mettere dentro il Paese dei Campanelli due pezzi ma inediti. Ma no, si può fare. Allora, se uno, voi mi insegnate che se usa il gusto, si può fare tutto. Non gli stravolgimenti, ma delle piccole cose si possono fare. Allora, stanno commissionando due pezzi del Paese dei Campanelli. Gianni, scusami, ti voglio rassicurare. Io ho fatto La Vedova Allegra con la regia di Ugo De Anna. Sì. E ci sono delle pagine nuove e dei personaggi nuovi, sì, messe così. Aiosa. Guardi quanti bei messaggi sull'operetta. Speranza di rinascita, di risveglio, di crescita. Si può anche dalle operette nostre radici. Fatemi sapere. Esatto. Che bello. Grazie. L'ho detto che ci sono compagnie. Ci sono molte compagnie pieno in Italia che fanno operetta, per fortuna. Però noi che facciamo l'operetta cerchiamo di farla con gusto. Perché è la cosa principale nell'operetta, non si può mettere tutto nell'operetta, perché poi si va nel chip, è troppo, nel... bisogna farla sempre col gusto, nei costumi, nelle luci, nelle gag, bisogna essere... altrimenti continua ad essere considerato uno spettacolo di terzo ordine, cosa che non lo è. L'operetta non è verseggiativo di opera, commediola, non è ci così. Ci sono stati insomma. Direttori come Karajan, Bernstein che hanno diretto. Sì, Leonard Bernstein ha fatto. Anche Karajan. Diretto musica. Ci hai cantato con questi signori? Sì. Che bello. Con Karajan per me è stata un'esperienza incredibile. Guarda, aveva due occhi azzurri che ti scavavano. Eccolo, lo vedi. Cadia, no, ma no, perché io quando lavoro comunque, non è vero, Pino. Ma, no, ma non è una cosa brutta, è una cosa bellissima essere ma carnali. L'occhio, perché l'occhio, poi poverino l'occhio. Aveva tutte le mani deformi, aveva. Ma dai, questo sì, sì, l'ho incontrato tardi, ho fatto la Tosca con lui, e però quest'occhio che aveva vivo. Sì, mamma mia. E Leonard Bernstein, anche lui è sfiorato, lui. Lei ci ha cantato. Ma Bernstein, insomma. Beh, Bernstein, sì, la famiglia di Bernstein, sì, parliamo di West Side Story. Cioè, stiamo parlando di West Side Story. Sì, cioè. Sì, ma poi c'è una raccolta bellissima che uscirà anche quella dal giornalaio, e lo ringrazio, il giornalaio ormai sono diventati una fucina di cose interessanti. Abbiamo lo stesso, io te di giornalaio. Esatto, 40 DVD di Leonard Bernstein che spiega la musica, racconta la musica come a dei bambini, cioè. E te la fa amare. Sì. Quelle sono cose che diciamo prima, sì, sì. Per avvicinare le persone. Ci sono delle prove anche dove Carrera si era incavolato a tal punto che, e durante le prove ha tirato una bestemmia e lui si è incavolato tantissimo. Dove? Eh? Alle prove? Sì, mentre provava con in West Side Story con Carreras ha tirato fuori una bestemmia. Sì. E lui, sì, mamma mia. Però ma erano così questi grandi direttori. Cara, gli hanno mandato via uno dalle prove perché questo è arrivato dentro e ha detto: scusi, sa, maestro, dice, ma io sono emozionato, me la faccio addosso. Ma l'ha detto in una maniera anche abbastanza volgare. Questo ha detto: bene, allora vada fuori. e non è più tornato. Ma dai, ha cacciato perché si sta facendo la cacca addosso. Ma non si dice per far sì, dire, ero un sinonimo, voglio certo. Dire che ho paura, maestro, quindi. E questo l'ha cacciato via. Sì. Che io c'ho la golina e ci avrei mai cantato con questo. bastava che dicesse maestro vado in toilette, ma vai. Vai, dove tranquillamente. No, erano tremendi. C'è un bambino Dario che mi chiede se faccio CKX di Cars. Insomma, stiamo parlando di operetta, di lirica. Von Karajan, Leonard Bernstein, un personaggio che io ho doppiato in Cars, il suo film famoso della Disney. Io facevo ciao, arrivi dopo il tuono, Saeta McQueen. Questo ero. Ho fatto anche delle altre cose, ma un bambino chiede. Però qui io faccio. Vedi, questo è rimasto. No, non è questo, non è l'una. Siamo arrivati a 40 secondi dalla pausa leggermente più lunga. Voi potete ancora rimanere da un po' con me. Sì. Dobbiamo vediamo, dire un sacco di belle vediamo. Cose. Ma guarda, Togni, dobbiamo far sentire un sacco di cose. Tutti. Complimenti per la trasmissione che ascolto tutte le domeniche. Come dicevo nel messaggio precedente, il teatro, la Scala organizza per i bambini a scuola prima nazionale recita apposita sia di balletto che di opere. E se ne occupa l'ufficio promozione culturale con circa 150 spettacoli all'anno, con dei percorsi studiati con gli insegnanti delle scuole a far capire ai ragazzi quello che andranno a vedere. Mi piacerebbe molto poter partecipare in diretta, ma purtroppo sono totalmente afono causa malanno stagionale. Va bene, le nostre trasmissioni vanno in onda tutte le domeniche, rimetti in contatto con noi. Carissimo, eccolo qua, siamo ancora di alla radio con Dario, il nostro bimbo è 2 anni, ti prego Pino facci cica ciao, vi prego leggete i nostri, leggiamo, incontrai alle 2 del mattino nell'84 a San Pellegrino Terme la signora Ricciarelli con Pippo Baudo, vabbè, furono gentilissimi, ma lo sono, lo ricordo sempre, ciao Luca. Operetta, musica classica, impariamo il saldato, va tutto bene per distogliere e salvare i giovani dall'invasione dei display. Beh, tantissimi, benissimo. Signori, a tra pochissimo, cioè tra pochissimo no, se c'è il GR, 6-7 minuti e torniamo. Ciao! Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy, sono le 16:05 minuti e 32 secondi, devo dire che sta ricevendo un notevole consenso da parte dei nostri radioascoltatori, perché bene o male Voice Anatomy si occupa di voci in tutte le sue declinazioni e qui mi sembra che stiamo declinandoci a 390 gradi, no? Come io dice e quello Katia bravo. Abbiamo lavorato insieme. Ecco, lì mo è uscito fuori, perché già ho 2 ore che stiamo parlando, non era mai uscito che Gianni Togni alla mia sinistra, Katia Ricciarelli e Alessandro Corelli. Sandro vaghi ormai. Sai. Sì, l'età è quella che tu dici questo. Vogliamo rinfrescarli. No. Quando è che avete abbiamo fatto insieme un Madre Teresa di Calcutta dove io scrivo tutte le musiche, insomma abbiamo fatto una cosa molto bella in diretta televisiva dall'aula Paolo VI si chiama ancora sì. Così sì, sì, sì. La Sala Nervi esatto, Sala Nervi e poi invece io ho avuto l'onore di poter lavorare con Katia quando a Verona abbiamo festeggiato i suoi 40 anni di carriera. Ecco, 30 anni fa, non, ti ricordi? Non di età, di carriera. Di carriera. Ma è bello, ma adesso te lo sei ricordato. Pure beh, lei. Se le cose vengono piano piano. Andiamo bene, ci vogliono 2 puntate qui per raccontare tutto. No, va bene, poi arrivano tantissimi messaggi da dire, questo mi diverte molto. Vi ascolto dal bagno causa ospiti di mia moglie. Complimenti a tutti. Adesso non devo uscire o penseranno che sono morto o peggio come Karajan mia moglie mi caccia da casa proprio perché se la sta facendo sotto come nell'opera o nell'operetta così questa nella vita ricordiamoci che i bambini vedono le stesse cose di noi grandi ma con occhi diversi da Vi canto una storia di Katia Ricciarelli e Marco Carrozzo viva l'arte dice Viola per cui c'è il tuo libro. Il suo libro. Il suo libro, vedi. Ce ne sono bel tantissime. Ci fai Hansel va un casino. Ecco, qui poi scendiamo. Hansel va un casino è Zoolander, dove io doppio da 19 anni Will Ferrell, questo attore comico però americano. Però i cartoni non te ne perdi uno. No, questo non è un cartone. Io doppio, ho doppiato 296 persone in carne ed ossa e una trentina di cartoni belli. Hansel, questo era un gay che Zoolander è sulla moda, che ha fatto Ben Stiller, è un film divertente eccetera c'era questo grande stilista che molto particolare diceva Hansel va un casino quest'anno era così era molto era stilista ovviamente in tutto e per tutto a parte l'operetta però devo leggere i messaggi non si arrabbiano fino a beh, è stato un momento bellissimo potete dire come dove avere informazioni sui teatri che rappresenteranno le nostalgiche operette leggiadro il grazie i teatri Katia vuol dire i teatri? Sì, ricordarselo, no, dillo tu. Dillo tu, Sandro, va che è meglio. Ma tu non lo sai, sta buono. Al Teatro Boni di Acquapendente, a Roma saremo al Teatro delle Muse, al Teatro di Tor Bella Monaca e al Manzoni. Ah. E al 3S saremo al Teatro Bobbio. Mobbio, a te. Esatto, esatto. Benissimo. E poi insomma, proprio ieri l'appetito sera, il nostro produttore cantando. Parlava di altre tappe, altri teatri. Oh, ci ha raggiunto anche il maestro Pier Francesco Pingitore dall'altra parte del vetro e lo vedo sempre col suo cappello elegantissimo. Elegantissimo. Anche lui. Vabbè, come sempre c'è il maestro. Buonasera maestro. Ninni. Buonasera. È un vezzeggiativo come operetta che non vuol dire... No, minore rispetto a tanti registi e autori, anzi è il contrario. Per cui vogliamo anche ricordare gli attori, me li dai che voglio leggerli? Certamente. Io sì, che tu sei più bravo a leggere, sì. Con questa voce suadente. Allora, il Golden Show di Trieste presenta Katia Ricciarelli e Andrea Binetti, Marzia Postogna, Nicola Malagnini, Antonella Profera, Enrica Musto in Viaggio nell'Operetta, Vienna, Budapest, Parigi e Londra, Roma, Auf Wiedersehen Berlin. Che è un quinto spettacolo che va a chiudere questo ciclo di operette. Ovviamente si fanno i trittici, questo è un quintico. Un quintico. Che cos'è? Un pentaco. Un dittico. Un dittico, un duo e un unico e unico. Vabbè. È di Gianni Gori, Alessandro Gileri, che abbiamo detto essere il produttore. Musiche sono di Strauss, Lehar, Kalman, Abraham, Gilbert O'Sullivan, e qui andiamo su, qui sul, sul pop. Leggero, sul pop, è vero? Qual è la canzone di Gilbert O'Sullivan? Allora, Gilbert O'Sullivan cantava sicuramente Oh Mandy, no. Quello è Barry Manilow. Barry Manilow non sta bene. Ah no, Gilbert O'Sullivan. Sì, Alessandro, aiutaci tu, ti prego. Perché è famosissima la canzone, questa sì, è come Vincent. Don McLean, quello era. Esatto, Vincent. Story 9. Nel frattempo, sì. Io ti posso fare. Hello again, naturally. Ecco. Vabbè, basta. Pino, ma perché non fai una cosa? Quando facciamo questa parentesi romana, perché non vieni a cantarci una canzone? Sì, era quello che vi stavo chiedendo, se c'era questa possibilità. No, mi hai anticipato di poco. Perché poi a Roma, quando saremo a Roma, vederci Roma. Esattamente, parleremo anche della commedia musicale Garinè Giovannini. Certo, perché ho fatto poi quasi il maestro Garinei vieni. Era triestino, Pino. Quindi, quale? Garinei? Esattamente. Grande esattamente, maestro, grande quindi Pietro. Ci sarà un omaggio anche alla commedia musicale di Garinei. E chiuderemo... Il nostro Sistina è stato... Il nostro punto grande. D'arrivo. Ti abbiamo strappato una promessa. Sì, ecco, io davanti, poi cominciai anzi... con il Gino Bramieri Show, con l'Allegra Brigata, la regia di Carinei, Romolo Siena, eravamo lì per 3 anni il sabato sera su Rai 1, eravamo proprio bambini, eravamo con Ciuffoli, già autori di questi personaggi straordinari che si alternavano su questo palco, Bicevalori, Paolo Panelli, Della Scala, il Quartetto Cetra, Aldo Fabrizi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Walter Chiari. Come state? Ma che cosa? Grandi nomi, grandi. Se non grandi ci ricordiamo di questo veramente, ragazzi, come si fa? Se non lo trasmettiamo? Sì, bisogna trasmetterlo assolutamente. Ma tu sai che nel mio campo non sanno neanche chi è la Callas, alcuni. Ma Callas è qualcuno che ha usato molto le cose, no, e sono qualche cantante che studia che comincia, ti giuro, non sanno. Purtroppo gli americani sono più bravi di noi in questo, perché te lo ricordano ogni giorno. Anche chi i francesi, anche i francesi. Noi lo dimentichiamo, non lo dimentichiamo, perché poi la gente lo sa e lo vuole, e sono le istituzioni che dovrebbero rendere ogni giorno dedicarla a qualcuno. Il nostro passato è anche un'icona, insomma, diventata... fa niente. Manca da troppo tempo, di conseguenza. Sì, ho capito, però pure Kennedy è morto da tanto, ma l'America ha perso quella virginità nel 63, se ne parla ancora, nel senso che si ricorda nei film, in tutti i loro cantanti, negli Oscar, sono bravi, sono bravissimi in questo. Noi non amiamo così tanto il nostro passato. No, non molto. Abbiamo una memoria corta. Questo pieno saluti a Gianni Toni dal suo affezionatissimo fan club, vedi? Ah. Sì, ho un fan club molto... Pure! Quanti siamo? No, perché a numero chiuso sono... A numero chiuso l'ha fatto, come l'università! Non io, sono loro. E sono vero. Adesso sono, circa 1500, no, mi sembra. Però per entrare devi chiedere, insomma c'è tutto ma un meccanismo. Ma la raccomandazione per entrare nel fan club, ma non è giusto! La massoneria, no, quest'anno che hanno fatto... Vincitore, ma allora, si rende conto? No, però il fan club è diventato così perché diventerà una mission... Mission. Che farà beneficenza ogni anno. Ma questa è bellissima. Allora, a loro di fare il merchandising. E il vostro transetter, che cos'è il vostro transetter? Il punto di... Stai parlando come un ufficio di comunicazione. No, dai. Che ne so, questa è la realtà, lo fanno loro. Io non c'entro. Se uno adesso indietro. Si volesse segnare al tuo fan club, va non può. Al fan club Gianni Toni. Va al fan club e non si può sentire. Va al fan club e non si può sentire. Giuro, non l'ho fatto. Dissento da questo. Giuro, non l'ho fatto. Siamo su Radio 24, allora, radio di Confindustria. Lui dissente. Va al fan club e non si dice. Lo dirà Cruciani nella sua zanzara, ma noi qui non lo diciamo. Perbacco. Va al fan club. Su Facebook, va sul sito del fan club di Gianni Togni. Gianni Togni chiede di entrare. In che modo? Dicendo vorrei entrare. C'è un'iniziazione a far parte. Particolare con tanto di cappello. Cioè, nel senso che loro deve cantare a memoria almeno non vogliono tre come canzoni. Nella tua radio, non vogliono persone che dicono parolacce, cose, eccetera. Quindi fanno un minimo di selezione. Guarda, che noi non abbiamo mai detto una parolaccia. No, io ho detto va a fan club. Va a fan club, però si può dire, dai. Si può dire. No, come ragazzi. Tu hai detto dissento. Dissento. Questa, allora cosa devo pensare? Dissento da dissenteria? No. No, dissento da dissenteria. No, devo chiedere aiuto all'applicazione che è Francesco Vincitore. Lui è l'unico che puoi cliccare e ti dice la storia di qualsiasi cosa. Per ecco, cui, lo italiana. Faremo. Infatti lo faremo entrare subito dopo. Quando andiamo, fra quanto andiamo in pubblicità, cara Rachele? Adesso? 30 allora... secondi? Allora anticipiamo di pochi secondi, così accumuliamo una serie e facciamo entrare il maestro insieme a noi. E io lo avanti. Saluto, lo abbraccio e poi vi lascio. Eh sì, però sì. Tu devi prima farlo entrare. Prima lo faccio entrare, vero? Poi lo saluto. Sì, non puoi fare un altro blocco con noi? E fino a quando? 4:30? No, sì, 4:30 sì. 4:30 ce la facciamo. Allora, a tra pochissimo, Voice Anatomy, a tra poco. Verona Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Di Giorgio Telesforo. Sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck. Sempre soltanto su Radio 24. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13:45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13:15, container, con Massimo De Donato. Voice Anatomy. Eccoci, 16:17 primi e 34 secondi, ci ha raggiunto anche il maestro Ninni Pingitore che sta regolando la cuffia, cade a Ricciarelli, sta facendo la tecnica del suono. Da fonico. Maestro, può far sentire la sua voce che c'è? Il microfono mio. C'è una tariffa per far sentire. No, nel senso che devo dare io dei soldi. Non deve dare niente. Dobbiamo ringraziarla di questa sua presenza, perché io le do del lei, ma non ci siamo sempre dati del tu. Sì. Mi piace però questo lei a Ninni Pingitore. Grazie, io ti do del tu con degnazione. Vabbè. Con degnazione, lui è l'unico che ha almeno tre sinonimi per ogni parola, almeno. È rock lui. Lui è rock, è rock. Tu sei rock. Sì, sono anche calabrese. Ninni, tu che anno festeggi? Dimmi, perché Cadia ha festeggiato tanti anni fa il 40° anno di carriera. Tu che anno festeggi? Io, siccome sono molto più anziano di Cadia, festeggio il 51°. E come lo stai festeggiando? In teatro, al in bagaglino. In teatro, naturalmente. Certo. Dove, se no? Ma c'è un'altra cosa tua? Magniamo se tutto o sbaglio? Si chiama Magniamo se tutto il primo tempo. Secondo tempo. Ed è un intento che noi vorremmo comunicare a tutta la popolazione, e cioè magnatevi tutto prima che se lo mangi il governo. Esatto. Tu che hai sempre avuto una parola buona per il governo. Sempre insomma. Il governo, lo Stato, eccetera. Assolutamente, io sono assolutamente equanime, sia da una parte, sia contro una una parte che contro un'altra. Esatto, a favore di niente. E, il secondo tempo invece si cambia completamente registro, e il titolo è Donne che avete intelletto d'amore, e una galleria di donne del passato, da Wanda Osiris a Marilyn Monroe alla Contessa di Castiglione eccetera, interpretato prevalentemente da Valeria Marini e Pamela Prati, oltre che dagli altri. Donne leggiadre poi. E andiamo. Anche se ricordo, parlare con te veramente non so da dove cominciare. Ma neanche io, anzi veniamo subito, lasciamo perdere. Che è una cosa che ci ha messo, cosa abbiamo detto all'inizio della trasmissione, l'autoironia, una cosa che non conosce il maestro. No. Assolutamente, anzi no. Io sono pieno di me. Tu però hai cominciato contro tutto e tutti, insomma, sì. Cioè tu, il tuo cabaret non era un cabaret semplice, il tuo bagaglino è nato... Sì. In un momento particolare storico, che anni erano? 1965. Ma sai, il tempo era sempre uguale, cioè c'era sempre una prevalenza della cultura, diciamo così, di sinistra, non c'era spazio per nessun altro, o eri di sinistra o non eri. E allora io, quando mi dicono ma voi siete di destra, tu sei di destra, io rispondo... Io volentieri sarei stato di sinistra, ma non c'era più posto. È come la battuta di Groucho Marx, abbiamo passato una bellissima serata, ma non era questa. Insomma, più o meno assomiglia a un passaggio allora del genere. Allora noi prendemmo questa nomea, anzi ce la demmo, ci autodefinimmo anarchici di destra. Anarchici di destra, destra. Coraggio assoluto, poi era la vigilia del 68, per cui poi, era sì, reazionario, poi il 68, vero. Il 68 rivoluzionò tutto, eccetera, però una, diciamo che idee politiche vere e proprie non ne abbiamo mai sposato, ma una condotta l'abbiamo sempre tenuta. E questo sia detto senza autoironia, e cioè non siamo mai dipesi da nessuno, non abbiamo mai avuto un soldo di sovvenzione da nessuno, credo forse siamo gli unici in Italia, eccetera, e tutto quello che ci passava per la testa lo dicevamo senza filtri e senza dover rispondere a nessuno della nostra. E poi hai dato i Natali a dei grandissimi attori, insomma, non è che sono destra, sinistra, beh, centro. Beh, Natale gliel'ha dato il Padre Eterno. Insomma, sì, sicuramente, è sempre preciso Ninni anche in questo. Però, insomma, lì sono nati dei personaggi veramente... che hanno reso poi, hanno fatto la storia della varietà, della televisione, della radio, del cinema, di tutto. Insomma, tu l'hai visto molto prima, hai avuto in tempi non sospetti tutto questo. Sì. A parte sì, le sì. Belle donne, quelle sono state il canale. Quelle non sono mai mancate. Mai mancate. Grazie al cielo, no. Ma sì. Non hai mai fatto parlare di te poi, la cosa, cioè parlare di te dal punto di vista artistico sempre, nonostante tu sì. Sia stato sempre circondato da queste donne bellissime. Beh, vabbè, essere circondato non vuol dire mica avere lui contatti del tuo tipo. Sempre in maniera corretta. No, un signore veramente... Un signore. Tu Katia però non avete mai lavorato insieme, vi siete abbracciati come grandi amici? No, perché... ci siamo abbracciati, avevamo un amico in comune. Sì, avevamo, certo. un amico in comune. Chi era? Chi era? Avevamo, ora non so se ce l'ha lui solo. Io ce l'ho sempre. Posso immaginare il nome e cognome. Anche amico tuo, però no, questo sai, non vuol dire. Quando due si sono amati difficilmente poi rimangono amici. Parliamo del Pippo Nazionale. Oh, no, l'hai detto tu. Sì, non Pippo Baudo. Beh, diciamolo, se no sembra che sia un amico in comune, che lui ti ha tradito, che l'è scappato con lui. Insomma, cioè, ha rovinato un'amicizia. No. Ma noi siamo sempre rimasti amici, vero? Sì, assolutamente. Questo anche con molta simpatia tra noi. Almeno da parte mia. Cadi in uno spettacolo mia. Tuo, hai visto, sta rinascendo l'operetta grazie a questo riavvicinamento. Ma di che di ci faccio io nel suo programma? No, però che c'entra, lui ha fatto dei programmi anche molto intensi con Oreste Lionello. Ho fatto anche la regia della Traviata. Ma solo che io adesso non sono più traviata, cioè non la faccio non più. Non sei più traviata? Ma Katia, ma come non sei più traviata? No, non la faccio allora più la traviata. No, se tu vuoi fare una regia teatrale, sì. non lirica, perché traviata, io le opere non le faccio più. Però una cosa drammatica, perché io sono anche una, come tutti i comici, io sono anche drammatica. Non sono solo comica. Certo, e con le musiche Gianni Togni. Così la regia dei Corelli, abbiamo chiuso il cast qua. Io vengo a cantare l'apertura. Ma per la verità molti comici sono drammatici, è vero. A loro insaputa, ma comunque lo sono. È vero. E tu invece sei comica e drammatica, consapevolmente. Grazie. È un amore. Non sta parlando dei presenti, ovviamente. Verona, con i suoi tre teatri, Filarmonico, Ristori e Nuovo, può sperare di poter applaudire Katia con l'operetta? Ringraziamo. Con molto piacere, sì. mi impegno, ecco. Amico. Parleremo subito con Gilleri. Beh, subito, perché sicuramente, insomma, no, ma che ci sta ascoltando, quindi Alessandro. Sì, io volevo alleggerire un secondo. Con il Teatro Ristori, sicuramente, perché è un amore, una delizia, sì. A parte il Filarmonico che già conosciamo. L'Arena è un po' difficile perché d'estate. Beh, tu dici che. Beh, sì. L'operetta è Nazional Popolare, sarebbe una, vera. Sarebbe una cosa. Adesso poi che si sono un po' allargati anche. Beh, come vedute. Con ma con solo io e Barry White a Verona, poi hanno fatto tutti. Concerti, molti. Bravo amico, mi hai dato un'idea. Ecco, hai visto? Me la fai sentire Giulia di Gianni Togni, per favore, un attimo, così. Ecco. Dai, mi ricorda questi amori estivi meravigliosi, Ninni. Che anno era, Giulia? 1984? Niente, non c'è sta 85, più cadere. Non mi ricordo. Ah, fatta te, non ho fatta io. Vabbè, boh, tutti gli anni d'uscita. Sentiamo la canzone, grazie. Cara, ti prego, salvami tu, tu che sei l'unica, mio amore. Non lasciarmi da solo in questa notte gelida. Per favore, non vedi dentro i miei occhi la tristezza che mi fulmina. Non scherzare, sto in mare aperto e mi perdo e tu sei la mia ancora. Ti prego sali in macchina, come faccio a respirare? Cosa faccio di me senza te, Giulia? Oh mia cara, non riesco a mangiare, non dormo ormai da un secolo. Non mi credi, senti la mia voce, è con questa che ti supplico. Tu che sei il mio angelo, non lasciarmi mano agli avvoltoi. Fai quel che vuoi, dammi il tuo amore, ho soltanto un cuore, te lo do. Non dirmi niente, no. Coupé decappottata, vento nei capelli e via. Ninni, questa è una canzone, leggerezza quella bella. Ah, sì, ma che questa bella. È una canzone ironica. Vabbè, è bella, io non so se è ironica, ma quali sono le parole? Ironica. A me piace, mi trascina. Ha perso l'ironia ed è rimasto invece, sì, no, ma come dico la nostalgia sempre, e il rimpianto. No? Come dico sempre, gli italiani sono persone serie e quindi hanno preso il testo sul serio, insomma. Troppi testi hanno preso sul serio. Però che bella, questa proprio, sì. Accompagna. Poi vedi, tu sei sempre riuscito a superarti, anno da questo è l'84, sì. Lo confermavano dall'altra ma parte. Ma tu mi fai sbagliare, avevo detto giusto. Poi detto, mi guardi, no, ma, te, devo, ma non ti guardo, l'hai, no, scritta tu, sei strano, l'ha, dai, scritta lui. Ninni, tu ti ricordi qual è stato l'inizio della tua carriera, gli anni? Sì, come sì, no, sì, come no. C'era ancora Napoleone. C'erano loro, no, capirai. No, Ninni, non si dice, Ninni è così da sempre, come Katia, si sono fermati, se lo mettono, sì, a casa, chiudono nel frigorifero e tirano fuori quando serve. Non intramontabili. Ho capito. Intramontabili. Ma sono il Polo d'Ogni, se invecchia, dai. Sono io. Sì, i capelli sempre lunghi. Sì, perché il mio produttore tanti anni fa, quando cioè, scelsi di produrmi da solo, mi disse: tu invecchierai coi capelli lunghi. Ma e questa è una maledizione, maledizione, che è una bella addormentata nel bosco, tu ti pungirai con un arcolaio. È rimasto così, tu invecchierai col cappello, ti hanno detto. Ninni, tu come invecchierai? Non sono caro, io ricoglionito. Lui invecchia e basta. Allora io saluto Katia, so che deve andare via. Devo sono prendere un treno insieme a Sandro, ovviamente. Grazie. Tornano in quel acqua pendente, perché domani c'è lo spettacolo. No, o io no? Torno a Monteverde, vicino a Monteverde, casa tua. Vicino casa, Monteverde Nuovo. Siamo tutti. Sì? Vi ringrazio, ho passato un pomeriggio straordinario che con te, Pino, con tutti. Anche quelli che hanno mandato i messaggi. Sì, stai tantissimo. Farò di tutto per Verona, prometto. Bene. Ecco. E do un bacio prima che darlo a te, prima, no, lo do a Ninni. A Ninni. Assolutamente. Grazie. Sì. Noi andiamo in pubblicità e rimaniamo insieme a Gianni Togni e Ninni Pingitore fino alla fine del nostro programma. A tra poco. Ciao. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, come uso dire, 16:31 minuti e 50 secondi, alla mia sinistra Gianni, dall'inizio della trasmissione Gianni Togni, che mi sta facendo... Sono inamovibile. È bellissima questa avventura, e Pier Francesco Fingitore, in arte Ninni Fingitore, alla mia destra, che ci ha raggiunto, lo ringrazio, perché Ninni non è la persona che ama apparire, ama lavorare, ama proprio fare il proprio mestiere con la sua ma grande... infatti così però... non apparisco, non apparisci, ecco, mi sentisco ancora, quindi correggono immediatamente, a me mi massacrano, attenzione, anche Ninni è uno molto attento. Ho saputo oggi dai miei autori che tu hai scritto, a parte le mille cose che hai scritto, il film che io fa forse la cosa migliore che ho fatto, che è Mezzo Destro Mezzo Sinistro, è vero? L'hai scritto tu quello sì, di... dunque aspetta, mezzo destro mezzo Gigi sinistro è il seguito ideale dell'allenatore nel pallone, era sì io poi ho scritto l'allenatore nel pallone, hai poi scritto anche quello. E poi anche quello mi pare, almeno in parte, per cui sei insomma fautore di un mio grande successo, dove sono stato doppiato in Veneto io lì in quel film. Ah beh, mi pare giusto, sì, 35 anni fa, però dal Veneto non ci sono state reazioni, no, perché non era la mia vita, no, niente, ero Carlo Vacca, quegli amici Vacca Carlo, una cosa indimenticabile. Va bene, mi dicono anche di far ascoltare dal web alcuni, un altro, almeno un altro brano dell'ultimo CD di ultimo Gianni, per modo di sì dire. Perché poi canzoni ritrovate del 1977, Gianni ha ritrovato nelle sue cassetti un disco che ha fatto insieme ai Pooh, pensa, e adesso l'ha tirato fuori con le facce, vedi, c'è questo bellissimo packaging dove c'è un Gianni Togni dodicenne. Cosa c'è? No, un packaging, questo packaging. Cos'è un packaging? Packaging. No, Ninni non ama questi inglesismi, il libretto, il libretto come... ecco, c'è il libretto, perché dici packaging? Hai ragione, che sembra pacco di qualcosa, esatto, cosa, una fregatura, capito? Vabbè, non lo è, ha ragione Ninni. E noi ci sentiamo sotto consiglio del mio amico Gianni Togni un pezzo, un altro momento di questo disco, che è Facciamone un altro di amore. Esatto. E dici per me che dici con le mie intenzioni avrà sorriso, saranno applaudito. Parlo del tuo volto alla gente, ti adoro, ma faccio finta di niente. Io che ho bisogno di te, e con me in casa al suo posto, sarò sciocco ma sono innamorato. Se vuoi io faccio quel giovane vento, quel tabletto mare recitato, sarò sciocco ma sono innamorato. La libertà se non ami la pelle, che spiega tutta la vita, a parte i tuoi occhi che sono verdi. Sei tu che bisogna scrivere e cercare, anche se durasse poco, anche se per te fosse solo un gioco. L'amore è la prima contraddizione, dico prima che vai, non... Beh, anche qui sono riferimenti, il giovane Werther, l'Amleto, ha scelto questo, all'epoca, questa cosa, perché la trasmissione è di alto livello. È di alto livello, di cultura, allora, giustamente. Non capisco perché mi hai invitato. Esatto, però adesso diamo un senso a questo. Tu sei un grande giornalista, tu io nasci no. Come giornalista. Come giornalista, sì. Esatto. Grande giornalista, sei stato capo redattore, capo del settimanale Lo Specchio, sì, no, è vero, certo. Cioè, e poi voglio dire un nome, Mario Castellacci, sì, che per te è stato un grandissimo amico, quasi un fratello in pratica. Castellacci e Pingitore era con Amurri e Verde, Castellacci e Pingitore, sì, sì, insomma, sono... come una coppia, esatto, diciamo artistica. E lui era più esperto, più bravo, più intelligente, più ispirato di me e mi ha anche insegnato tante cose. E io a lui non ho insegnato niente, però penso che nella nostra produzione ci siamo compensati abbastanza. Eh sì, uno aveva qualcosa che l'altro non aveva, sicuro. Sì, e soprattutto c'era una grandissima stima reciproca e un rispetto totale dell'uno verso l'altro. Cioè nessuno mai interferiva sulle cose private, personali, e neanche su quello che ognuno di noi scriveva. Spesso scrivevamo anche a quattro mani, però... Vi davate un tema anche voi, poi vi incontrate. Non dire a quattro piedi, perché quattro piedi non l'avrei mai detto. Lo dico di me e di Ciufoli, casomai a quattro piedi, ma di voi no. Voi erano quattro mani sicuramente. E comunque mi ha lasciato un grandissimo rimpianto, perché al di là della collaborazione letteraria, artistica, teatrale, eccetera, c'era un rapporto umano molto profondo. Eh sì, ho sentito parlare così Piero Carinei di Giovannini, ho sentito così parlare Castellano e Pipolo, insomma sono quelle coppie che hanno poi reso grande la nostra arte, sono quei nomi che hanno accompagnato veramente la nostra vita dal punto di vista, erano autori, uno diceva ecco questi sono gli autori, non sono gli scalettari di adesso, senza nulla togliere, c'è ancora qualche autore sicuramente. Ma molti prima erano telefonautori. Esatto, uno dice telefono. Dalle 12:15 alle 12:22 provocazione con il pubblico, 12:23 entra l'ospite, 12:27 esce l'ospite. Ma che succede? Non te lo scrive nessuno. Beh, questo perché sono molto riservati. Sì, esatto, sono autori riservati. No, ma qualcuno mi raccontava che gli autori, dico quelli veri dell'epoca, nascevano così perché andavano spesso in autobus, cioè riuscivano a capire quello che diceva la gente. Vivevano poi gente. Nel momento in cui sono andati tutti in automobile, chiusi nelle loro, questa è una, ovviamente per dire una cosa, chiusi nei loro mondi, non sono più riusciti a esprimere quelle grandi cose. Tu hai dato la svolta alla tua carriera a meno una cinquantina di artisti, qual è quello che ti ha lasciato, che senti più vicino a te? Oreste Lionello. Oreste, vero? Assolutamente, ma io non ho dato una svolta a lui, ho dato a lui delle occasioni di lavoro, ma lui ha insegnato a me più di quello che io non abbia insegnato a lui, capito? E io forse l'ho costretto a un certo rigore che il suo anarchismo artistico... Però tu eri una compagnia anarchica, nasce così, no? Sì, una compagnia certo, anarchica. Certo, sì. Per cui... Però io rappresentavo anche l'ordine. Chi è l'ordine? Un anarchico ordinato. Beh, lui, ho lavorato con Ninni. Ninni è precisissimo. Quando ho fatto uno sceneggiato con lui, una fiction, come si chiamano adesso, e io cambiavo un articolo, lui dice no, non è un, io ho scritto il, e se c'è un articolo determinativo, sì, non siccome l'autore è vivente ed è qui di fronte a te, tu rimetti quell'articolo, pure con grande educazione, con grande maestria, ma no, ero l'unico che riusciva a non farmi dire una parolaccia, me le contavo, questa è la seconda oggi, sono finite prima. no, grande, veramente grande rigore, anche perché nel cabaret c'è un grande rigore. Non c'è tutta questa grande libertà, la gente sì, improvvisa. La gente pensa che esista l'improvvisazione. L'improvvisazione è non esiste nell'arte, nello spettacolo, eccetera. Può esserci una volta che ti scappa una battuta che improvvisi, ma in realtà tutto quello che sembra improvvisato, ed è bene che sembri improvvisato, esatto, è studiato, provato, riprovato, certo. Si vede se funziona, se non funziona si toglie, eccetera. Capito? Mentre invece c'è questa leggenda metropolitana che chiunque può andare là e improvvisa. Adesso andiamo lì e improvvisiamo. Ma se vai lì e improvvisi non viene fuori niente, vengono fuori delle chiacchiere insulse come quelle che stiamo facendo noi adesso. E non abbiamo neanche i tempi comici. Esatto, lui c'è avuto pure il tempo comico, che lo stava a sentire con tanto fascino, ma ero staccato anche dal microfono, che dico fammi sentire il maestro. Ma qualcosa di Battiato, non, secondo te? Dici, non lo so, non ci ho presente. Non lo so. I capelli di Battiato. Così, no, con la cuffia così. Ma lui dopo le 6 se prende qua la medicina dopo i 15. Che sta così, Gianni, capito? Gianni Togni che l'hanno. Che cosa c'ho? Il golf? No. Il golf di Battiato. I modi così, l'espressività fisica. Senti, è cambiata tanto la televisione in questi anni, Nini. Tu l'hai vista tutta, il passaggio dagli inizi anche del tuo grandissimo successo con il Bagaglino, che hai portato in televisione, hai avuto tu questi intuizione di trasformarlo da teatro, portarlo in televisione, farlo diventare un grande evento, grandissimo evento. Adesso è cambiato. Beh, adesso è cambiato, è una televisione diversa, forse fai i conti anche con tutte le altre forme di comunicazione che ci sono, cioè tutto quello che è social, eccetera. E fino a qualche anno fa non esisteva. Sì, può essere un aiuto, ma certe volte è anche una limitazione. La televisione generalista è calata molto in tutto questo. E sta vincendo qualcos'altro. Cioè, adesso ti colleghi, c'è una web TV che ti può portare. Certo. E la televisione on demand, sai, che può anche aiutare. Io penso questo: che tutte queste trasmissioni di ricerca dei talenti, talent scout, e queste saranno delle fabbriche di disoccupati, perché se loro sollecitano il venir fuori di cantanti, ballerini, acrobati, barzellettieri, eccetera, i quali arrivano al talent e pensano, e siccome quella è una macchina, è una macina, perché gli danno 2 minuti e ne fanno, non so, 100 a sera. Quella è una macchina tale per cui non c'è assolutamente sfogo per tutti questi presunti talenti che vengono fuori, mentre più che talenti vengono fuori degli illusi che facevano prima magari non so, il panettiere, il commesso, oppure avevano una piccola industria. E questa, no? Speranza di poterci uscire, perché magari hanno delle doti, ma poi la togli immediatamente perché va ad appannaggio del vincitore che poi canta una sola estate, anche lì. Alcuni no, sinceramente, ma pochi, sono usciti alcuni artisti dai talent che ancora oggi sono pochi, però... Se io ti dico che ha vinto 3 anni fa X Factor, non te lo ricordi, io so che X Factor è un grandissimo programma, fatto benissimo, però io non me lo ricordo. Vedi, non è tanto chi vince, che... E chi perde, che... Sono tutti i partecipanti, quelli i decubertiniani, quali pensano che sia bello partecipare, ma in realtà spesso loro subiscono questa avventura come quella della loro vita e pensano veramente che cambieranno, non cambieranno nulla, perché non c'è posto per tutti questi ballerini, per tutti questi cantanti, per tutti questi illusionisti, per tutti questi illusionisti, la parola giusta, eccetera eccetera. Questo almeno io penso, ma naturalmente sbaglio, forse. No, è bellissimo, ma alla fine poi mette questa parola. È vero che non c'è spazio per tutto questo tipo di artisticità e il ricambio è difficile, insomma. Appunto, loro dovrebbero, io penso che il teatro è destinato ad assorbire molte di queste energie, è anche un bene, perché purché non si abbia la sensazione di aver fallito e quindi di rifugiarsi nel teatro, ma il teatro è la palestra e al tempo stesso l'espressione migliore per chi vuol fare questo lavoro, non per arricchirsi o per farsi riconoscere per la strada, ma perché gli piace lavorare, gli piace raccontare, gli piace imparare una parte e recitarla. Tu tornerai a teatro con le tue canzoni? Io lo spero, non è così facile. Un unplugged, togli unplugged, non è male. Non è così facile, ci sto lavorando intorno. Dai, che fai sempre, ormai fai cantare agli altri, fai lavoro agli altri, torna tu. So. Ninni, fosti tu a scoprire Valeria Marini? 30 anni fa? Fosti. Vedo che nonostante il passare del tempo è sempre fra le sue subrette e ancora si difende molto bene il maestro, sì. Poi ti saluta Nando e tutto il fan club, ti ringrazia Gigliola, eccetera, eccetera. Va bene, noi siamo arrivati al penultimo blocco, cioè l'ultimo è quello che verrà, e poi sentiremo i risultati da Maina Gioia, sperando che ci sia qualche notizia buona, perché è la trasmissione Tutti Convocati di calcio che va dopo la nostra. La Roma sta vincendo. Ecco, tu ti preoccupi solo di quello. Anch'io mi preoccupo. Anche tu. Va bene, hanno fatto pane e pino. Ho capito. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori, è l'ultimo momento, l'ultimo blocco, come si dice in termini tecnici, insieme blocco insieme a Ninni Pingitore qui alla mia destra, sia della destra non del padre, ringraziando il cielo, non è così. Non ma neanche sento... del figlio. Che del figlio che è alla mia sinistra, Gianni Togni che dalle 2:30 si sta prodigando nel dare se stesso, anche perché dice giustamente non devo né proporre né propormi, non ho spettacolo, cioè, c'è questo bellissimo CD di canzoni ritrovate che faceva parte del tuo carnet, insomma è una scusa... Come dire, questo è un regalo che mi sono fatto per Natale, esatto. Diciamo così. Ma poi è bello. L'ho condiviso con un po' di amici, ne ho stampato una tiratura molto limitata a 1500 copie, non ne verranno stampate altre. Ah no? No, assolutamente. E poi invece chi vuole lo può comprare su internet, però è veramente un regalo che mi sono fatto, l'ho fatto a me, a Red Canziana, a Dodi, insomma a tutti gli amici. Stavo cercando di convincere a tornare al teatro, ma pure lui sa che il teatro è come il delitto, non paga, non si fa per arte, per carità, no, di Dio. No, lo fai per arte, il problema è che io non ho l'organizzazione personalmente, io già ho una piccola etichetta discografica che già mi basta e mi avanza, perché non vorrei neanche fare quello, io vorrei fare solo l'artista, però investire sul teatro senza avere un'organizzazione è molto difficile. Certo. Certo. Ma tu, Pino, dicevi che è come il delitto, era un'esperienza personale. No, no, no, no, no. Leggo poi i nostri autori, che sono Alessia Navarro come capo progetto e Mauro Meconi, che è anche attore, regista. Alessia, noi la salutiamo e le mandiamo un bacio. Tu la conosci anche artisticamente. Conosci anche Mauro Meconi bene, perché nel 2004... Per lo salutiamo, i baci poi ci... No, i baci no, però lui, insieme a te, nel 2004 ha fatto Con le unghie e con i denti, che è una miniserie TV del 2004, certo. E Mauro faceva parte, il ruolo di Righetto faceva, non so se ti ricordi. Hai capito? Quasi tutti hanno fatto qualche cosa con me. Meconi, sì, è vero, quasi tutti. Fatti vedere in faccia, sei cambiato dal 2004, ho passato 12 anni. No, lui me lo ricordo, Te lo ricordi, è stato come bravo? No. Lui faceva con le unghie. Con i denti lo faceva un altro. Senti, c'è stato un grosso rammarico, Ninni, nella tua vita? Un grande successo, cioè un grande momento di esaltazione, un grande momento invece che magari hai pensato va bene. Nel lavoro, sì, immagino. Beh, non voglio entrare nell'intimo. Sì, qualche volta c'è stato, ma mai tanto. Cioè c'è stato qualche volta che dovevamo fare un film e poi non si è più fatto, o una fiction che era arrivata e poi non si è fatta perché... Sono ben, ma insomma momenti bene. Soltanto di alternanza sinusoidale che fa parte del nostro lavoro, sì, insomma, sì, niente. Magari sono delle cose alle quali tenevo, però chissà, poi un giorno o l'altro le farò. No, c'ho ancora una cinquantina di anni. Ah, ohia, Ninni, io non so, non ho detto anche l'età di Ninni, perché tanto è sempre quella, lui si è fermo, è l'uomo di mezza età. Sì, una volta, Marcello Marchesi. Oggi è stato il pomeriggio della persona, gli si è fermato il tempo. Si è fermato il tempo, sì, sì, niente. Pure Katia è ferma lì, ma pure te non scherzi. Grazie. No, Togni, sei lì. Uno deve vedere corsa per strada, i capelli lunghi, diciamo vedi Gianni Togni. Uno lo dice. Senti, abbiamo un collegamento sportivo prima di salutarci. Abbiamo un collegamento. Sì, con la trasmissione Va dopo di noi, che è Tutti Convocati, alla quale noi lasciamo sempre 300-400.000 ascoltatori, loro calano tutti 100.000. Perché non li sanno gestire. Siamo un po' come la classifica della Lazio. Guarda, subito da Milano stanno parlando. Buon 2017. Buon 2017, che non è bisestile, Capuano. No. Vediamo se anche tu cambi, non sei bisestile nei confronti. Ma intanto della ti racconto squadra. Che dimmi, ha che appena compiuto un miracolo Szczęsny, 92esimo 1-0 Roma. Bene. Ma ha tirato fuori dall'incrocio dei pali una conclusione che sembrava insomma diretta al pareggio della Roma. Bene. Ma ti racconto anche che un minuto fa ha segnato la Lazio. Ma dai, è cambiato tutto. Sta cambiando. Ma tu devi sapere nella, che nella propria porta. No, ha segnato Immobile in quella buona. Immobile, capito? Ecco. Fino a poco tempo fa, fino all'altro anno, come mi collegavo a Capuano, la Lazio prendeva un gol. Oppure. Ma era un anno fa. Pino. Era un anno fa. Si è mossa a pietà adesso. Adesso sì. Di somma pietate. Che altro successo, a parte questa bellissima notizia di Immobile? No, dunque, stanno terminando le partite. L'unica che è terminata è Chievo-Atalanta, ed è finita 4-1 per l'Atalanta. Con doppietta di Gomez, Conti, Pellissier e Freuler. Atalanta forte. Esatto. Sì. Partita incredibile dei bergamaschi, ed è l'unica che è terminata. 0-0 tra Sassuolo e Torino, siamo a pochi secondi dalla fine, c'è il rientro di Berardi da salutare. 130 che bello, sono contentissimo. Ho parlato con il suo infortunio. Ho incontrato la sua famiglia, qualcuno della sua famiglia a Sassuolo, e mi ero anche un po' preoccupato, nel senso che hanno detto che c'era un problema importante. Invece vedo che è in campo, e questo forte. Mi fa molto piacere. Un altro italiano forte, stiamo riscoprendo l'acqua calda, no? Che ci abbiamo italiani. Sassuolo che ha appena colpito la traversa, partita finita. Meno male, meno male che nella Lazio, se no veramente riaprivamo una vecchia diatriba. Il resto c'è la Roma che conduce 1-0 a Malassi, autogol di Izzo, 36esimo del primo tempo. Autogol di Izzo, autogol di Izzo, sì. Gli avversari, quando quando ci vedono vengono presi da panico e segnano. Niente, niente, certo, esce fuori sempre la classe di Vincitore. Tu la seguivi tutti le bei programmini del grande Vincitore Capuano? Sì, qualcosina seguivo. Qualcosina. Ma io poi sai che seguo solo il calcio, quindi. Esatto, però insomma, sono il calcio. Ma no, c'ha problemi Capuano, Vincitore. C'ha dei problemi enormi. No, no, ma fa bene a seguire soltanto il ma calcio. Non dico di seguire magari Lionello, Pippo Franco, Leo Gullotta, ma magari Valeria Malini, no, ma comunque c'erano appuntamenti che erano fissi, nella settimana, anche perché quando io ero ragazzino, come tu sai, insomma, i canali erano meno i canali, quindi esatto, c'era Colpo Grosso, quindi insomma, queste cose tu guardavi assiduamente. Senti, ti vogliamo bene. Il finale della Roma 1-0, no, Lazio 1, Crotone 0, non è ancora finita, ma però se posso darti una notizia. No, attacca! C'era un gol per il Crotone regolarissimo annullato. Ciao. Bene, allora, vedi che è cambiato veramente tutto. Cioè, è cambiato, stavolta segnano gli altri e non vale. È bellissimo. E questo è Capuano, signori. Alla prossima. Alla prossima, buona domenica. Questo, ciao, bello mio, a dopo. Lo chiami Capuano, ma questa della Lazio non è Capuano. C'è anno finale. C'è anno finale. C'è anche. Va bene, insomma, ci siamo arrivati. Comunque abbiamo finito in allegria. In allegria, sì. Però Pier Francesco, certo. Vincitore, con te è stato soltanto una toccata e fuga, non una bacca. Ma è un'ora e mezza che stiamo qua. No, è mezz'ora neanche che tu sei seduto su quella poltrona, forse qualcosina in più. Ma di cose da raccontare a livello filologico, di storia, di voci che tu hai ascoltato e che non possiamo più ascoltare, e tu sei testimone oculare, ce ne hai di cose auricolare da dire. Auricolare non ti serve ancora neanche quello, giusto gli occhiali, ma li hai sempre portati, io invece eccoli qua. Per cui è una promessa mi fai, Pier Francesco Vincitore, lo dico a tutti e tre, a Piero, a Francesco, a Ninni e a Vincitore. È questa promessa? Che tornerai, magari accompagnato, magari qui facciamo venire Pamela Prati. Il tuo masochismo non ha fine. Ma no, no, qui siamo, sentiamo parlare un signore, come si dice, d'altri tempi, che non è così, dovrebbero essere tutti signori d'altri tempi. Autobus, vero metro, possesso della realtà, arrivano tante. Di messaggi e di complimenti, vabbè, ne abbiamo letti tanti. Gianni Togni, grazie di questa tua testimonianza, grazie. Che è stata telefonica qualche mese fa sì. Con la promessa di averti qui e ci sei veramente. Stato e quanto ci sei stato. Dovevo fare un'oretta così. Puoi andare via, tu ringrazio Katia Ricciarelli, vuoi salutare qualcuno Ninni? Nessuno. Non so, te, posso salutare te e basta Io voglio parlare di tante cose. E posso salutare Trump? Sì, ah, ecco una persona. Ce l'hai nel tuo spettacolo, Trump? Trump c'è nel mio spettacolo. Chi lo fa? Carlo Frisi. Carlo è lo fa molto grande bene. Imitatore. E quindi io saluterei Trump perché ci ha dato la possibilità di fare la sua imitazione. E la sua first lady, che è bella. E la sua first lady è bellissima. Beh, donna. Devo dire, come prima donna del bagaglino ci sta. Io, sì. No. Vediamo. Non lo so, vediamo un po', sai, Trump insiste, mi ha chiamato. Sì, lo so, è uno che quando si mette addosso però, è così. No, però io non lo so, comunque devo fare un provino, e questo ti questo prometto. Sì. Non te posso garantire cosa buona. Grazie per Francesco Vincitore, grazie Gianni Togni e grazie a queste canzoni trovate del 1977, quando avevi già 52 anni. Sì, lo so. A domenica prossima, voi sanatomi, grazie ai miei autori, grazie a Mauro Meconi, grazie a Alessia Navarro, grazie a Rachele, grazie a Alessandro, grazie a Milano, a tutte le persone che ci mandano in onda e grazie a Capuano e a parola a tutti i convocati.